si può fare di Alessio Maurizi. Questo è l'abitudine di qualcheduno di strumentalizzare tutto senza tener conto e avere come obiettivo comune il bene dei cittadini e la salute dei cittadini. Prima ci si informa, poi si parla. Faccio due esempi, il trasporto pubblico funziona a Milano, funziona molto bene e questa sospensione delle auto per alcune ore al giorno è molto efficace e lo dice l'ARPA. Poi bisogna far rientrare questa misura emergenziale in un contesto complessivo. A Milano in questi anni abbiamo migliorato l'aria e questo lo dicono tutte le statistiche in maniera estremamente significativa. Buonasera a tutti cari ascoltatori, buonasera ad Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buonasera a tutti. Bello dire buonasera dopo che diciamo sempre buongiorno. Sempre buongiorno, non sono abituato ad andare buonasera, in onda di sera. Auguri si può dire ancora, sì, si deve. Beh, si deve dire perché soprattutto auguri 31. Per il Capodanno ovviamente. Eccoci qua questa sera e fino al 31 a tenervi compagnia nell'orario della Zanzara. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta non cambia, è sempre quello. Siamo insieme a Miriam Lucchetti, Emanuele Brignoli in redazione e con Paolo Corleoni in regia questa sera. Ottimo, ma siamo così. Si può fare. Ma siamo si può fare. Allora, vabbè, insomma, non potevamo che iniziare così. Hai sentito Pisapia che difende, insomma, il blocco del traffico. Oggi non si andava a 100 all'ora, ma non si circolava proprio. Niente. Finalmente tu, oh, no, non si cambia nulla perché tu la patente perché non ha la patente. Beh, non è vero, perché comunque il blocco era anche per i motorini, era per sì. Tutto ciò che va a benzina, insomma. Da 0 a 10, quanto sarò banale se dico che era bello rivedere la città senza macchine, che si rivedono gli alberi, si vedono le facciate dei palazzi, non c'è rumore, è bello, anche se magari non serve un tubo al blocco. Io questo non lo so, in realtà quello che penso non è tanto, cioè non penso nemmeno alla bellezza della città senza macchine, perché non penso questo, nel senso che non penso per forza che le città siano più belle se non ci sono le macchine, però quello che penso è che non mi sembra molto interessante discutere sull'utilità o meno della questione, perché penso che sia anche un fatto semplicemente di sensibilizzare. Siamo in una situazione emergenziale, quindi diciamo fermiamo le macchine, poi serve al 20%, serve al 2%, serve al 98%, mi sembra, cioè, assolutamente la febbre, intanto prendiamo un'aspirina e è influente quanto serve. Serve ricordare che siamo in una situazione di emergenza. Alcune di queste polemiche, Gasparri. Si è convenuto che la soluzione all'inquinamento purtroppo non può basarsi sugli atti di una sola città, occorre una politica nazionale e internazionale per affrontare questa emergenza. Delibere delle singole città purtroppo sono una goccia nel mare delle soluzioni che servono a livello internazionale. Poi c'è il candidato sindaco del PD Beppe Sala, che senti qua subito come ti parte con una bella botta, con una bella propostina. Se devo pensare a un progetto, penso sicuramente nell'ambito della città metropolitana a portare la metropolitana a Monza. Credo che sia molto importante. Monza è la terza città lombarda, quindi c'è un grande flusso che arriva, però ecco, è proprio il momento in cui comune e regione, ma attraverso la città metropolitana, si mettono insieme e riflettono su come gestire questo problema dell'inquinamento e del traffico, che è un problema importantissimo. Cute, we got his eye, now get it, solo dire questo, da avere scoperto da un giorno all'altro che i risparmi di una vita, una gran parte, sono andati in fumo. Io la nuova Banca Etruria so solo che è un simulacro di tutto ciò che per noi abbiamo perso. E queste erano le proteste di alcuni dei risparmiatori che sono rimasti fregati dal fallimento di Banca Etruria. Tra poco li sentiremo. 800 24 00 24, cari ascoltatori, potete intervenire anche su questo. Intanto però, restando in tema di mobilità, torniamo, facciamo un attimo un passo indietro. Hai visto questa notizia incredibile del treno che non si è fermato? Non si è fermato. Di Freccia Bianca. Cioè, noi di problemi da questo punto di vista non ce ne facciamo mancare uno in Italia, eh? Vabbè, non lo so, sì, no, pensa a quelli che devono prendere un aereo o andare a lavorare stamattina alle 6.57 di Freccia Bianca a Vercelli, è passato. Sì, posso dire che non sono uno tenero di solito, sì, nei confronti di Trenitalia, però devo dire che in questo caso è veramente una dimenticanza, ed è una dimenticanza umana, che tu passi e dici: ma bisognava fermarsi a Vercelli, sì o no? È passata a Vercelli. Ormai è andata. E si sono dimenticati. È grave, non sto dicendo, mi spiace moltissimo perché è rimasto a terra, però devo dire che per una volta, invece che delle strane motivazioni che uno non capisce, è una dimenticanza. Dovevamo fermarci, non ci siamo fermati. Ma immagino infuriati. Sì, sì, ma sarei stato, una cosa se fossi fatica. Stato a Vercelli a aspettare il treno, penso che non parlerei con questa pacatezza. Allora, noi, cari ascoltatori, anche questa sera vi chiediamo all'800 24 00 24, così, di raccontarci il viaggio più strano che vi è capitato di fare, visto che parliamo di mobilità alternativa. Tra mobilità ridotta, per obbligo, a non andare in auto, in alcune città, e treni che non si fermano. Voi come viaggiate? Qual è il viaggio più strano che avete fatto? Bicicletta, calesse, tutte possibilità. Se arriva un calesse, secondo me si candida per vincere, direi. Anche oggi due biglietti, il catalogo di una delle mostre del gruppo 24 ore cultura, credo Tamara dell'Impiccica a Verona, ma c'è ancora Gauguin a Milano, c'è anche Barbie a Milano. Poi siamo informatissimi sulle mostre. Abbiamo tutto. 800 24 00 24. Intanto buonasera a Silvia Battistelli, portavoce dell'Associazione Vittime del Salva Banche, che credo, buonasera. Sì, salve, buonasera. Buonasera. Si trova forse ancora ad Arezzo, nei pressi della sede di Banca Etruria, dove eravate oggi a protestare? No, sono rientrata sostanzialmente da pochi minuti. Dopo un pomeriggio al freddo. Al freddo, sì, oggi c'era una media di 3 gradi ad Arezzo, è stata veramente dura fisicamente. Ma per colpa nostra è rientrata? Come, scusi? Per colpa nostra è rientrata per questa intervista? Non per merito vostro. No, il presidio era fino alle 4:30 e quindi siamo rimasti lì fino alle 4:30 e poi sono rientrata. Che cosa chiedete? Cosa chiedevate oggi a Banca Etruria? Allora, oggi chiedevamo a Banca Etruria, anche in base alle risposte che ci sono arrivate ieri dal signor Nicastro, quindi il presidente delle quattro nuove banche, e chiedevamo di non essere, cioè lui ieri ha sostanzialmente, non con queste quelle parole che sto per usare, ma dicendo come che noi non siamo più un problema per le nuove banche, non siamo un problema delle nuove banche, oggi non però, possiamo rivolgersi a loro. Oggi però sul Corriere c'è un'intervista a Filippo Taddei, responsabile economico del PD, che dice: grazie al decreto salva banche anche la nuova banca è responsabile. Io non ho avuto modo di approfondire perché chiaramente ero in piazza e stavo lasciavo la rassegna stampa oggi in giornata. Ecco, noi per adesso quello che stiamo notando è il fatto che comunque la parte buona, che gli interessava ancora dei nostri risparmi, l'hanno liberamente, tranquillamente spostata in una nuova banca senza per di più neanche nessuna autorizzazione. Quella invece che gli faceva comodo per sanare la parte ormai che cattiva, la bad bank, l'hanno spostata invece. L'hanno azzerata. Senta, ma lei personalmente quanti risparmi aveva investito nei titoli della banca? Ma in realtà io sono coinvolta nella vicenda per mia nonna, che ha perso 50.000 euro in obbligazioni subordinate. 50.000 euro, ma quanto aveva, diciamo, di risparmi investiti? Perché c'è la questione che bisogna differenziare. No, bisogna 50.000 euro. Tutti investiti in quelle obbligazioni? Sì. Era stata invitata a non lasciare il TFR di mio nonno interamente nel conto corrente e gli sono state proposte appunto le obbligazioni subordinate come garantendo il capitale, chiaramente, altrimenti non ce l'avrebbe mai messi. Però garantendo il capitale, quindi la banca... Assolutamente sì, ma certo, ma si immagina quanto due persone che vengono sostanzialmente da una situazione sociale medio-bassa possono avere possono essersi impegnati, quanto lavoro e sacrificio ci può essere dietro. No, ma è chiarissimo, sottolineavo la questione perché mi sembra che si stia facendo una differenza fra quelli che sono stati truffati e quelli che invece hanno provato a investire perché speravano in lauti guadagni, e mi sembra che in questo caso si parla di truffa. Infatti volevo solamente... truffa, infatti per fortuna da Civitavecchia stiamo finalmente sollevando quella che è la realtà situazione, quella ma è la reale situazione. A sua nonna era stato detto il livello di rischio che era connesso all'investimento, no, su questi titoli? No, e niente, lo immagino anche per lei lo lasciasse intendere, perché comunque il tasso di interesse è al 3,5% lordo. Non altissimo, quindi... non altissimo, anche questo... No, al paro di quelli che sono appunto i titoli di Stato. Sì, quindi, quindi tutto lasciava pensare che non fossero molto rischiosi. Ma sua nonna, lei lo sa, che tipo di profilo di investitore aveva? Perché ognuno, sai, va in banca, devi compilare quella cosa. Aveva un medio basso, poi dopo adesso stiamo verificando anche nella nostra corrispondenza, dovrebbe aver ricevuto medio basso, perché quello che si dice, che dice ancora oggi in questa intervista il responsabile economico del PD, è questo, cioè chi aveva il profilo medio basso e gli sono stati proposti questi titoli che invece erano di livello alto di rischio è stato letteralmente truffato, e quindi dovrebbe rientrare tra quelli che verranno risarciti totalmente. Comunque possiamo parlare in generale di persone tutte truffate, visto e considerato che comunque oltre alla questione degli obbligazionisti c'è anche da dire che c'erano false informazioni di mercato, quindi chiunque ha acquistato un qualsiasi prodotto finanziario di queste quattro banche non l'ha acquistato nella chiarezza che dovrebbe invece contraddistinguere questi tipi di... Ma voi non aveva detto niente nessuno, cioè non circolava neanche la voce, perché la Banca d'Italia aveva scritto delle lettere a Banca Etruria, voi non eravate stati avvisati? Assolutamente no, solo oggi stiamo scoprendo, io sto provando a cercare nella corrispondenza di mia nonna, perché si tiene sicuramente tutto, quindi probabilmente troveremo anche questa, probabilmente una lettera che dovrebbe, mi dicono che dovrebbe essere arrivata intorno al 23 dicembre del 2014. No, io sto parlando poi di quello che ha fatto Banca Etruria in seguito alla lettera inviata da Banca Italia. Vabbè, ma quando ormai i giochi erano fatti. No, ma che cosa dovrebbe esserci in questa lettera del 23 dicembre? Chiamavano a controllare il profilo di rischio, e c'era la disponibilità di soltanto due giorni, che erano appunto lunedì 23 e martedì 24. Ah, è la famosa storia che gli avevano chiesto di prorogare questa cosa ed è stata prorogata il 22 23 dicembre, che onestamente 23, non sono 24 dicembre. Ah, le chiedo scusa, 23-24 dicembre, che onestamente non mi sembrano delle date molto papabili per andare in banca. Sono documenti che comunque sono usciti tutti appunto informazioni uscite nei quotidiani, quindi sì. Voi siete di Arezzo? Io della provincia di Perugia. Ah, della provincia di Perugia. Ok. Sì, sì, sì, okay. Sì. Poi chiaramente sono portavoce di un gruppo che di tutta Italia sostanzialmente, le banche sono concentrate in particolar modo in Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna, quindi siamo sostanzialmente più di tutto il centro Italia, prende una buona fetta di nord, e comunque ci sono persone di Milano, di ovunque. Ci abbiamo un attimo una pausa per l'informazione sul traffico. Silvia, se vuole rimanere con noi qualche minuto, torniamo tra pochissimo. 800 24 00 24, ascoltatori, cominciate a digitare il numero verde, tra poco si interviene in diretta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in compagnia di Silvia Battistelli, portavoce dell'associazione Vittime del Salvabanche. Silvia, quanti anni ha sua nonna? 80. 80 anni. Ora voi immaginatevi, una donna di 80 anni va in banca e gli fanno investire tutti il suo TFR, 50.000 euro, tutti in un unico investimento ad alto profilo di rischio, per una che ha un basso profilo, diciamo, di risparmiatore, di investitore. È una cosa, mi sembra, sì, infatti, irreale. Immagini quando noi sentiamo ancora che provano a additare queste vittime, ma come mia nonna ce ne sono tantissime, io ho giurato che non mi fermerò fino a quando non avrò giustizia per questi nonni. Ma lei conosce, cioè sua nonna aveva un rapporto di fiducia con quanti certo, anni? Da quanti anni era? Anche oggi, probabilmente conosce da più tempo le persone che lavorano in banca di me, che ho 35 anni, chiaramente. Il rapporto tra... Era una vita che era titolare del conto lì. Ma sì, ma poi tra banca e risparmiatore c'era sempre un rapporto di fiducia, di consulenza, cioè dovevano essere le persone che meglio ti consigliavano come investire i tuoi soldi, non come farteli buttare in carta straccia e farteli rubare. Mi scusi, quello che mi chiede è, voi conoscete la persona fisica che dietro uno sportello ha consigliato... Sì, so che non abita, non lavora più qui nella sede di Città. No, no, ma non voglio il nome, ci mancherebbe altro. No. La cosa che mi chiedevo era se c'è consapevolezza, se c'è coscienza, cioè se voi la incontrate per strada e dite: ma scusa, ma che cosa hai venduto a mia nonna che adesso è sul lastrico? No, io ho anche l'idea di andarci a parlare, sono curiosa di sentire quello che mi dice. Comunque sia, credo che indipendentemente dalla buona o dalla cattiva fede non ci siano comunque giustificazioni, perché chiaramente certo. Non vendono mele al mercato, per cui devono essere assolutamente informati non soltanto dei prodotti sì. che vendono, ma anche della reale situazione dello stato di salute della loro banca. Ma infatti quasi, verrebbe quasi da dire che se io fossi uno sportellista, arriva una signora che mi dice: voglio investire tutti i miei 50.000 euro in questa cosa qua, io gli direi: guardi che è molto rischioso, ne investa la metà, cioè quasi che dovrebbe essere quasi che non capisco sì, come sì, mai le abbia, doveva quasi essere il bancario a consigliare di non fare quel tipo di investimento. Assolutamente sì, questa è la realtà dei fatti. Senta, ma del papà del ministro Boschi sapevate qualcosa? Lei pensa che abbia qualche responsabilità? Ma direi decisamente sì, insomma, cioè comunque uno dei problemi che affligge di più e che ha portato a questa situazione è stato il fatto che la banca ha elargito enormi somme di prestiti a persone di cui probabilmente si sapeva che non avrebbero poi restituito, perché poi tutto nasce da qui, e quindi di aver poi dato per colmare il buco sono stati creati questi strumenti finanziari che dovevano, diciamo, servire a colmare questi buchi, ma poi invece io credo che sia andata così. Proprio così. Poi verificheremo chiaramente in sede di causa, perché anche se comunque hanno sì. talmente tanto studiato bene il decreto che i punti nei quali potremmo agire legalmente per il momento sono pochi. Questo dovrebbe rendere ancora più chiara qual è la truffa perpetrata. Però da tutti. A questo punto non ha fiducia in questa ipotesi, diciamo, di rimborso che il governo dice sono stati stanziati dei soldi. Ma quella è in giro, che io dico è un'ammissione intanto di colpevolezza al 30%, anche meno forse, perché mi risulta che comunque verranno risarciti solo 1.300 risparmiatori su 130.000, e non è assolutamente sufficiente per far fronte a un problema creato da una truffa e perpetrata da non solo dai quattro istituti ma dalle istituzioni in generale, per cui è assolutamente irrisorio, devono essere risarciti tutti, perché tutti sono stati truffati alla stessa identica maniera, alla stessa identica stregua, e soprattutto se vogliamo approfondire quello che stanno proponendo con l'arbitrato è un'ulteriore presa in giro che ci fa arrabbiare ulteriormente. Non si conoscono i parametri, gli unici parametri fino ad oggi resi noti sono quella della distinzione tra obbligazioni subordinate primarie e secondarie, come se questa distinzione fosse intrinseca della persona che l'ha acquistata, ma non lo è, perché in realtà un'obbligazione secondaria semplicemente viene venduta quando già è stata immessa nel mercato, e sappiamo che le hanno vendute anche allo sportello. Certo, quindi ma questo... mi scusi, le volevo chiedere una cosa, io sono ignorante, sono lo stupido dei due, quindi magari faccio una domanda stupida. Quello che mi chiedo è che i problemi di questo decreto ci sono abbastanza evidenti, però c'è chi dice che senza questo decreto voi avreste perso tutto, è così? No, allora questo non è vero, perché comunque l'obbligazione subordinata, io so tutte queste informazioni da un mese a questa parte, comunque nel caso di fallimento della banca viene risarcita in tempi più lunghi, perché comunque viene dopo altri tipi di prodotti finanziari, ma viene risarcita non al 100% ma entro il 60-80%, quindi per contratto comunque non è previsto l'azzeramento o la perdita totale, e questo è importante. Infatti è scandaloso come sia la direttiva che il decreto e il bail-in avranno retroattività su contratti firmati in tempi in cui appunto questa direttiva e il bail-in non esistevano. Questo è ingiusto non soltanto per noi, ma è ingiusto per tutto il sistema bancario italiano. Quindi non è vero che senza questo decreto avreste perso tutto, e quindi no, è su questo che fate la vostra battaglia. assolutamente no, perché le obbligazioni assolutamente sarebbero state risarcite in tempi più lunghi e al 60-80%, quindi anche le loro essere rischiose non era comunque previsto l'azzeramento. No, non così rischiose come con il decreto. Assolutamente no. Grazie, grazie mille. Grazie Silvia Battistelli. Prego, grazie a voi. In bocca al lupo per i vostri risparmi e anche un saluto naturalmente alla nonna. Alla nonna, sì. Questa era insomma quello che ha dato in scena oggi davanti a Banca Etruria la protesta dei risparmiatori. Avete appena sentito Silvia Battistelli, agguerrita, portavoce dei familiari, diciamo così, di quelli truffati, insomma, no, di quelli proprio di un gruppo, ce ne sono anche altri. Andiamo con i vostri interventi, cari ascoltatori. Cominciamo con Lello che ci chiama da Taranto. Buonasera. Sì, buonasera a voi. Prego, Lello. Niente, il mio intervento era un attimo finalizzato a capire la situazione del blocco del traffico di Milano. Sì, tra l'altro preannuncio a lei, Lello, ma anche a tutti gli altri ascoltatori, che sentiremo l'ARPA tra poco e proviamo anche a capire da loro se hanno già qualche dato su come è andata questa giornata senza macchine a Milano. Prego. Sì, no, il mio dubbio era un dubbio alquanto elementare. Il problema a Milano si è proposto dopo, se non sbaglio, 26 giorni di assenza di pioggia. L'estate non piove per qualche mese. Allora, o l'estate non abbiamo dati di riferimento per cui si debba bloccare il traffico, oppure il problema non sono soltanto le vetture, ma gli impianti di riscaldamento e qualcos'altro. Sì, certo. No, ma lei la risposta la sa, perché in certo effetti che è così. Anche il riscaldamento contano contribuisce. Tutte e due, anzi guardi, secondo l'ARPA contano, a Milano conta di più il traffico e meno il riscaldamento, nel resto della Lombardia le proporzioni sono rovesciate e cioè conta di meno il traffico e di più il riscaldamento. Però, se non sbaglio ci sono dei controlli comunali sulle emissioni, sì, delle caldaie, degli strumenti per il riscaldamento, sì, o no? Sì, sono controlli che sono previsti da una legge regionale che vengono fatti, almeno così dice il Comune di Milano, l'assessore Maran dice che addirittura vengono fatti l'8% di controlli su un 5% previsti, però stiamo sempre qua, Lello, che dobbiamo fare? Anche perché è più facile colpevolizzare comunque le vetture con quello che costa mantenere una vettura. Tra l'altro io sono a Taranto, per cui quanto a inquinamento siamo certo abbastanza leader. Sì, sì, ma ogni città, bene, ogni zona avrà anche le no, sue ma case. Lei ha ragionissimo, ma non è una questione di criminalizzare le auto, è solo che forse è più difficile dire alle persone state a casa senza riscaldamento con su una coperta, piuttosto che dirgli non potete uscire con la macchina, ma uscite con la metropolitana. Facciamo le energie rinnovabili, come ci sono in molti altri posti europei. Va bene, Lello. Siamo sempre un po' fanatino di questo. Vabbè, sì, comunque, sì, grazie per l'intervento. Ma ci mancherebbe, grazie a lei. Grazie, andiamo con un altro ascoltatore prima di chiudere. Vi sentiamo un'altra voce. Stefano da Padova, buongiorno. Buonasera, sono Stefano da Padova. Buonasera. Buonasera. Stefano. Sì. Buonasera. Sì. Non lo sentiamo più, Stefano, è partito. Allora, Paolo da Milano. Paolo. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono in tangenziale est e sto tornando dal lavoro. Come è la situazione? Vimercate, siamo fermi in galleria per un incidente. Ah, vabbè, quindi. Però vabbè. Attenzione allo smog, perché fermi in galleria direi che è difficile avere una situazione peggiore. A Milano no, giusto, era pulita l'aria. No, per niente, guardi, addirittura infatti oggi eravamo il blocco totale, quindi ci mancherebbe. Guarda, io lavoro in Rubattino, mi sembra che l'aria sia identica da 25 anni. Sia d'estate che d'inverno. Sì, certo. Beh, in ogni caso volevo dire il tema della uno dei temi era uno dei viaggi più strani che avete fatto. Sì, sì. Ce l'ha uno. Dicembre ce l'ha. Del 2009, sempre sì, tornando dal lavoro, ai tempi lavoravo in Viale Lunigiana e nevicato. Sì. Quindi sono uscito alle 3:10 dall'ufficio perché dissero guarda che nevica, vai a casa. E io sono uscito. Sono uscito alle 3:10 da Viale Lunigiana 10. Sono arrivato a Ronco Briantino. Indovinate? alle 3:15 del mattino. No, beh, è un record totale. 12 ore. Ho tutte le fotografie. Ma ci dica quanti vero? Chilometri sono, per chi ci ascolta e magari non conosce proprio Viale Lunigiana a Milano. 38 chilometri. Mi 12 ore mi fate 12. Ma perché era tutto fermo? 6 ore fermo con la macchina spenta in Piazzale Loreto. In mezzo a Piazzale Loreto. Ma cosa ha fatto? Ha dormito nel frattempo? Ha giocato a pallette di neve. Ho mangiato la neve, ho fatto la pipì, non so, sono in diretta, non so se si può dire tutto quello che vuole. Ma insomma, la pipì la facciamo tutti. Quindi 12 ore di viaggio, il viaggio più assurdo, ma non è passata la voglia di prendere la macchina quel giorno per sempre? Non so, uno a un certo punto dice basta, non ne posso allora, più. Allora, io solitamente vengo al lavoro in moto, devo dire, devo essere onesto, solo in determinati periodi dell'anno, come appunto a ridosso di Natale, prendo la macchina. Per motivi miei e anche oggi difatti sono in macchina, però oggi è andato certo. Tutto liscio. Quel giorno me lo ricorderò per sempre, 6 ore fermi in Piazzale Loreto. E te credo Paolo, oggi è in macchina, ma deve essere partito da grazie, casa. Dobbiamo chiudere, c'è il giornale radio, ci troviamo subito dopo. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Anche questa settimana di feste il Falco e il Gabbiano è con voi per raccontarvi grandi storie. Ha fatto vedere a tutti come muore un italiano, Fabrizio Quattrocchi. Una leggenda dell'aviazione al femminile, Amelia Earhart. Non solo il cantante di una band, ma un simbolo, Augusto Daolio. Per chiudere il 2015 un tuffo nell'alcol e nella vita sregolata di Charles Bukowski. E infine per brindare al 2016 la storia della vedova Clicquot. Tutti i giorni alle 15:30, naturalmente su Radio 24, vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Buone feste a tutti. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Giunga, giunga. Un intervento della regione che potrebbe farlo, che non l'ha fatto, ci vorrebbe anche un intervento a livello nazionale e apprezzo questa volontà del Ministro dell'Ambiente che ha convocato le grandi città, i rappresentanti delle grandi città e le regioni per trovare una soluzione comune. Certo è che se la città metropolitana, che ha la funzione proprio di tutela dell'ambiente, avesse il potere non di imporre ma di proporre e vedere non vanificate le proprie proposte, noi avremmo una situazione completamente diversa. Per il ministro Galletti ci vuole un'azione di sistema. Per Salvini il blocco del traffico non serve a un cavolo. Oggi Milano ci ha provato e noi siamo appesi a loro. Carlo, a chi? All'ARPA. Buonasera al presidente Bruno Simini. Buonasera e complimenti per il jingle. Vabbè, era facile Simini. Presidente di ARPA Lombardia, siamo appesi a voi. Insomma, ci dica qualcosa, date una sbirciatina a questi dati. No, beh, questo è fisicamente impossibile, nel senso che i dati si raccolgono e valgono per le 24 ore complessive, quindi la sbirciatina potremmo darla Solo domani. Io in realtà lo sapevo perché non volevamo svegliarci la mattina presto e volevamo avere un'anticipazione, un anteprima, un'ideuccia, cioè una sensazione. Dormite pure tranquilli, no. Si fa per dire. Sì. In questo periodo, scusi, tanto tranquilli con polvere sottile alle stelle, non è possibile. Infatti, ho aggiunto si fa per dire. Cui non ma gliel'ha data almeno una respiratina all'aria, Simini, una respiratina alla lei che è presidente dell'ARPA, avrà in qualche modo sentito se c'è stato un miglioramento o no? Ma guardi, allora sinceramente io a chi mi chiede di poter fare alcuni esempi, perché sì, non è il primo blocco della storia di questa città, certo, o di altre che no città, sono stati praticati e sperimentati già oltre 10 anni fa. Io, come dire, per fare un esempio, che tanto per intenderci e per capirci, è come se un fumatore incallito che fuma due pacchetti di sigarette al giorno decidesse per tre giorni di fumarne 5-6, neanche zero, perché in realtà il blocco di cui stiamo parlando non è totale, ma riguarda 6 ore su 24, va bene che sono le ore centrali. Nell'esempio del fumatore a volte uno sta anche peggio, perché dicono... No, però l'esempio mi sembra precisissimo, perché comunque sia, visto che appunto c'è chi dice non serve a niente, io rimango dell'idea che sia importante anche semplicemente come simbolo per ricordare la situazione di emergenza, però giustamente come dice lei e come risponderebbe probabilmente mia nonna, direbbe beh, sempre meglio che niente, se ne fumi 60 per 3 giorni, ne fumi 5 o 6, comunque hai fumato... 150 certo. Sigarette in meno. È sempre meglio che niente, però noi dobbiamo sempre calibrare questa cosa, tutto è meglio che niente, bisogna sempre vedere i costi-benefici sì, certo. di una scelta, salvo poi magari leggere, come è capitato alle volte, che non cambia nulla, addirittura esatto. i stati aumentano. Ecco, ma come mai? Se lei non può darci una un'anticipazione di quelli che saranno i dati di domani, però una previsione l'avrete fatta guardando ai dati del passato, come è andata le altre volte? Innanzitutto le do un dato vero, perché al di là delle previsioni di scoprire il numerino di domani, secondo me è per esempio interessante capire che noi negli ultimi 10 giorni abbiamo avuto un decremento delle concentrazioni anche del 30-40% nella regione Lombardia, anche nella sì. città di Milano. Cioè sono diminuite le polveri. Il 18 di dicembre noi avevamo valori intorno ai 90, 100, anche 110 microgrammi per metro cubo nella nostra città, a Milano, e come dire, a ieri noi misuravamo 55-60. Beh, dopo un fine come settimana mai? Però dove col Natale eccetera si è fermato no, ma come un po' mai? Come mai? Dobbiamo, esatto, noi dobbiamo sommare tanti effetti congiunti in cui andiamo a leggere un trend negativo, quindi io domani, come dire, se leggo un numero vicino al 50 non mi stupisco rispetto ai dati di tendenza. Il come mai è abbastanza semplice. Allora, perché Babbo Natale porta i regali con le renne non inquinano. Esatto. Questa è una possibile spiegazione plausibile. Ma una un po' più tecnica? Beh, innanzitutto noi dopo il 20 di dicembre sono chiuse le scuole e alcuni uffici pubblici restano chiusi anche intorno a Natale, quindi tu hai già una grossa mobilitazione in meno, perché poi le scuole spengono i riscaldamenti nel periodo invernale. Ecco, ma questo lei ce lo conferma, perché si è sentito dire che bisognerebbe che gli uffici pubblici chiusi spegnessero i riscaldamenti, come se in alcuni casi invece restassero accesi. Beh, dipende, se gli uffici pubblici restano chiusi come le scuole pubbliche per 2 settimane, naturalmente anche qui per un tema di risparmio sì. energetico e anche per ridurre i livelli di emissioni può avere un senso spegnere i riscaldamenti, per 24 ore diventa controproducente, un po' come i blocchi, cioè se io fermo perché devo poi anche bisogna riscaldare di nuovo devo anche capire cosa succede nelle ore prima del blocco e nei giorni dopo al blocco, è per quello che invito alla cautela anche sulla lettura dei dati di domani, perché poi alla fine dei 3 giorni bisogna vedere cosa succede il quarto, il quinto, il sesto giorno sì. di risulta. Allora, quindi lei anche dal blocco. Diciamo si aspetta una linea di tendenza. Sì, scusi un attimo, aggiungo sì. un elemento che, sì. che è quello che ha creato questa situazione e che non ci possiamo dimenticare, al di là di tutti i dibattiti in cui non entro, in cui c'è entrata anche giustamente per certi versi la politica, perché quello che ci ha portato in questa condizione sono le condizioni climatiche. In questa fase, faccio un esempio, domani è previsto dal pomeriggio una brezza che da est della pianura padana va verso ovest. Il vento in questa partita gioca un ruolo fondamentale, almeno un vento come che prima nei giorni scorsi non c'era mai stato. Esattamente. Quindi questo contribuirà. È difficile distillare poi dei risultati dei prossimi giorni come è previsto per esempio. Ma in passato, Simini, questi blocchi sono serviti o no in passato? Ma no, in passato no, nel senso che infatti hanno smesso di farli per un periodo di tempo, qualcuno poi le targhe alterne, non le targhe alterne. Ripeto, i blocchi se diventano sì. provvedimenti, cioè se si trascinano qualche tipo di provvedimento strutturale, facciamo un esempio, si dice abbassiamo ecco, le temperature, abbassare le temperature è una cosa meravigliosa dal punto di vista del risultato. Pensi, e pensino gli ascoltatori vostri, che ogni grado di diminuzione di una temperatura in una casa, in un ufficio, comporta il 6-7% in meno di emissioni nell'aria, quindi tantissimo un grado. C'è chi ha in casa 22, 23, 24, 25 gradi, immaginate togliere 2-3 gradi, che cosa vuol dire dal punto di vista della qualità dell'aria. Sì. Ho sentito che a Milano si diceva basta 21 gradi, facciamone 18. Meraviglioso, 18, 6 punti per ogni grado, ma il tema è c'è qualcuno che poi controlla che questo accada, perché sennò possiamo dire... Ecco, ma gliela faccio io a lei questa domanda, visto che è il presidente dell'ARPA. Come mai sono anni che si sente parlare anche di questo, e poi però da chi dipende questi gradi dentro gli appartamenti? Da chi dipende? Beh, da chi fa, se ci sono delle ordinanze, delle regole, chi fa le ordinanze le deve far rispettare, possono essere i comuni o chi le può fare in generale. Per esempio in Lombardia c'è una legge regionale e poi i controlli devono fare i comuni, è così? Sì, questo è quello che dovrebbe accadere, però io metterei già la firma se ci fossero 21 gradi dappertutto, no? In questi giorni abbiamo visto a volte in uffici pubblici, in case private ci sono spesso temperature da altissime, aprire la finestra, sì, confermo, gente con i bermuda, le magliette a maniche corte d'inverno in casa. Sì, che tanto è assurdo proprio in questo momento in cui abbiamo un inverno che è pochissimo freddo, quindi non si capisce perché dovremmo avere le case così particolarmente calde. Questo è un fatto, e quindi sulla lettura dei dati il mio invito è che immagino domani che uno dica se è uno in meno, se è uno in più, allora successo è successo. Grande attenzione. Allora, storicamente i blocchi non hanno mai portato a risultati apprezzabili dal punto di vista del miglioramento della qualità in un modo, come dire, in un significato che abbia un senso anche nel tempo. Però, ma che cosa bisognerebbe fare però perché invece questi risultati abbiano un senso? Perché la cosa che a me stupisce un po' è che noi tutti gli inverni siamo qua a parlare di questo problema e invece d'estate mai qualcuno che ne parla, allora, nel senso che tutti gli estati sappiamo che poi arriverà un inverno con il blocco del traffico perché c'è l'inquinamento. Allora, dal punto di vista, come dire, a partire dai singoli fino alle istituzioni, più o meno li abbiamo già toccati tutti gli argomenti. Allora, il rinnovamento del parco dei veicoli è stata, secondo me, la cosa più importante che è capitata in questi 10 anni, quindi l'innovazione, quindi passare da un euro 0 a un euro 6 vuol dire cambiare di 100 volte l'impatto che hai sull'ambiente e sulle emissioni in aria di PM10, sì. Anche perché adesso parliamo solo di questa sostanza. È chiaro che questo avviene gradualmente. Ci sono stati incentivi che sì, perché una cosa, scusi Simini, mi faccia dire una cosa, ha ragione, perché in effetti se noi guardiamo ai livelli di PMI, agli sforamenti giornalieri di PMI negli anni passati, scopriamo che quest'anno che siamo, credo, a 98, siamo comunque più in basso di quello che è accaduto, che ne so, nel 2007 128, nel 2006 145 giorni, nel 2005 150 giorni. No, ma le dirò di più, che dal 2011 indietro non siamo mai stati sotto, tranne un anno, ai 110, 120, 130. Cioè, se oggi i superamenti sono in Regione Lombardia di 3 mesi su 12 mesi, prima del 2011 arrivavamo a 5 mesi, 6 mesi di superamenti. Sì, a parte il 2010. Si è migliorata, a parte il 2010, infatti l'unica eccezione è stato quell'anno. E lì la meteorologia poi incrocia anche la pioggia e la piovosità. Noi siamo in questa situazione perché abbiamo avuto 110 mm d'acqua quest'anno nell'ultimo trimestre contro 500 del trimestre dell'anno quindi scorso. Quindi anche se può sembrare assurdo dirlo, stiamo un po' migliorando lentamente negli anni. No, è così, anche nella conoscenza e nella consapevolezza. Io, come dire, quando dico sono felice, sempre lo dico con la F minuscola, sono molto contento di quanto se ne parli di questi tempi, dell'importanza di vivere in un posto sano e con dell'aria che dobbiamo fare tutti qualche cosa per migliorarla. Quindi quando stavamo molto peggio come aria forse se ne parlava persino molto meno. Quindi da questo punto di vista, sia in termini di conoscenza, di consapevolezza e anche di intraprese, certamente abbiamo fatto passi avanti. Però per riepilogare, uno, il rinnovamento dei veicoli è stato un passaggio fondamentale e continuerà ad esserlo, cioè lasciare veicoli vecchi per veicoli nuovi. Più nuovi naturalmente migliora la qualità delle emissioni. Sì, è difficile dirlo quest'anno quando con la questione Volkswagen tutti abbiamo preso l'Euro 6, però poi abbiamo scoperto che l'Euro 6 era in realtà inquina come l'Euro 0 e quindi... Sì, in realtà lì, come dire, sappiamo tutti com'è andata. Al però netto non, dell'effetto non può Volkswagen, controvertire insomma, il fatto che un Euro certo. 6 diesel rispetto a un Euro 2, un Euro 3... Ma c'è meno. Chi ci dice, per esempio, all'SMS è assurdo tenere ferme le macchine a gas perché inquinano meno? Sì, beh, lì si potrebbero fare tante distinzioni, a mio avviso, cioè, come dire, anche le due ruote, visto che non fanno traffico, noi dovremmo anche fare un'istinzione su questa. Non basta vedere cosa esce da un tubo di scappamento. Se io in una città con un motorino attraverso la strada in 10 minuti anziché in 30 a parità di percorrenza come veicolo, noi dobbiamo anche contare imponderata al fatto che le due ruote impattano molto meno, perché poi non creano molto meno traffico e congestione, quindi si possono fare tanti distinguo e tante distinzioni. Aggiungerei, per dare anche un elemento di conoscenza, non per carità, per voler fare cultura, ma è interessante, che oggi per esempio il 50% delle emissioni dei PM10 riguarda il consumo degli pneumatici e dei freni, non più dai tubi di, non solo dai tubi di scappamento. Beh, sempre macchine sono, sempre di macchine parliamo, però. Certamente, però, come dire, tra i mille consigli, innovare il parco veicoli, una guida, come dire, un po' più sobria dal punto di vista del consumo dei freni e dei pneumatici. Gli impianti di riscaldamento, oggi pochi sanno ancora quanto la combustione da legna, per esempio in regione Lombardia, però 40%. Questo forse vale più fuori da una città come Milano, no? Guarda, in Milano 22%, io sì. Ogni volta che dico questo dato tutti un po' si stupiscono, perché a Milano il 22% del PM10 arriva dalla combustione della legna, sì, che non è e poco. Quindi dal riscaldamento. Invece in regione questa percentuale aumenta addirittura, è così, vero? 44%. E invece l'incidenza del traffico è rovesciata, cioè più forte a Milano e meno forte nel resto della regione. Questo sì, certamente, anche perché Milano. Senta, ci dice un'ultima cosa: domani mattina chi volesse andare, cosa fa? Va sul sito dell'ARPA? Chi volesse avere i dati freschi? C'è sempre tutto, quindi, anzi, c'è troppo, dal mio punto di vista. Non a che ora? A che ora domattina? Fa fatica a districarsi nei numeri. Ma in genere dalle 10-11 del mattino ci sono già i dati del giorno prima. Ecco, invito a una lettura, sì, per evitare che poi ognuno le faccia una telefonata. Poi la manipolazione dell'interpretazione del dato è un sport, come dire, abbastanza ricorrente, però la serie storica secondo me è fondamentale. Saranno due gli elementi da guardare, secondo me. Il primo, capire nella progressione, nella tendenza alla riduzione delle concentrazioni che avvertiamo negli ultimi 10 giorni a Milano, ma in tutta la regione, capire come continua il trend, perché è chiaro che se continua questa tendenza di qualche punto è fisiologico rispetto a quello che sta già succedendo in questi giorni. Allora ci dica l'ultimo dato, scusi, che poi devo sapere. La seconda cosa, sì, sarà interessante anche poter fare un confronto magari con comuni o che città in cui non è stato fatto il blocco. Qual è il dato a cui partiamo oggi per Milano, così vediamo cosa dobbiamo confrontare domani? Noi a Milano abbiamo circa, diciamo, 55, una concentrazione che va dai 55 ai 60. Perfetto, che è della giornata. Perfetto. Domani è il giorno della verità. Grazie Bruno Simini, buona serata. Buonasera. Grazie mille. Buonasera. Borsa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, e vi aspettiamo anche per raccontarci il vostro viaggio più strano. Parliamo di mobilità alternativa, che ne so, auto elettriche, bici, piedi. Ma più strani li vogliamo, calesse. Però no, auto elettriche. Infatti, io ti posso raccontare, quando ero ragazzino andavamo al mare a Pisa, spesso andavamo in bicicletta trainati da l'unico che aveva il motorino, no? Tipo due o tre biciclette, e ci attaccavamo a uno che aveva il motorino. Potevamo, se inquinavamo di più, perché potevamo chiedere a quello dell'ARPA adesso, sì, se in realtà un motorino se risparmiamo, che traina 600 amici, se consuma di più. Oppure se invece risparmiamo un po' di polveri sottili, perché chiaramente erano quattro bici e un motorino. Ma secondo me la cosa ideale in questo sistema è che i quattro ciclisti dietro al motorino respirano tutte le polveri sottili di quel motorino, quindi perlomeno è un sistema che va a zero. Arrivavo al mare che avevo le gambe tutte puntellate di puntini neri, che erano lo scappamento, che allora erano motorini sicuramente non come quelli di adesso. Ragione, non Simini, erano Euro 6. Era roba molto più inquinante. Allora andiamo con, aspetta che recupero, Roberto da Firenze, buonasera. Ecco, sono io. Ecco. Sì, signori. Ciao, buonasera. Scusate, ma nel frattempo, senti, sono entrato a un cinema, ho preso un panino nell'attesa. Ha visto anche il film? Lunga. No, ancora no. Ma come mai? Panini al cinema? Fanno dei buoni panini al cinema? No, non è che sono buoni, è che uno arriva via all'ultimo momento. Ah, c'è film, che film, Roberto? Il Ponte delle Spie. Il Ponte delle Spie? Fra quanto comincia? Tra 10 minuti. Ma è perfetto. Noi verso le 9 siamo qua, se poi ci racconti anche dopo come... lo racconto, ma non ce la può perché finisce lunghissimo, sono le 2 ore e 20, è di quelli lunghi. Su cosa volevi ci può chiamare domani? Sì, te lo racconto domani. No, senti, io volevo intervenire sul fatto dei viaggi strani, sì. Perché a me ne è capitato uno, appunto, parlando del treno che passa a diritto, per l'appunto mi è venuto in mente subito la situazione che mi è successa a me qualche anno fa alla stazione di Melpignano in Puglia. Ero stato alla notte della Taranta, si parla del giorno metà di agosto, 20 di agosto. Come certo, celeberrima, sì. Ne parliamo sempre, ma da Milano, perché facciamo di solito l'estate qua a Milano a fare Si può fare. No, un marasma complesso, la notte tremenda, un casino bestiale. Vabbè, a parte quello, una notte passata in bianco. La mattina, non so se siete mai stati a Melpignano, ma la stazione sembra di essere a Frittole, praticamente la stazione di Benigni. Piccoline, Frittole, non ci resta che piangere. Sì, preciso, sembra una stazione di genere, c'è un binario, binario unico, treno penso a gasolio. E che è successo? Che è successo quella notte? È successo che siamo arrivati in anticipo perché i treni ne passava uno ogni 3 o 4 ore. Il nostro logicamente passava, io ero una mia, il nostro passava logicamente dopo 3 ore. E quindi siamo stati lì in attesa. La cosa buffa di tutto l'istituto è che la capostazione donna nel frattempo è andata a fare la spesa, ma ha lasciato in gestione la stazione, ha messo il telefono fuori dal buino dove si paga il biglietto, no? Quella specie di passaggio sotto il vetro, diciamo. E questa è la parte bella, direi, nel senso che lasciate in gestione la stazione di modo che potesse rapidamente fare la spesa perché aveva bisogno. Sì, certo, fare le omissioni. A me sembra una cosa bella, però chi vuole ovviamente può telefonare dicendo che questi sono i fannulloni, gli assenteisti, no, molto no, volentieri. Ma nella buffetta di tutta la situazione è stata una cosa, certo. Una delle tante cose. Ma poi com'è finita? Quindi com'è finita? Dalla capostazione esce sulla banchina del treno dove era una desolazione tremenda, come sai è stato un caldo bestiale. E questo è il treno, è il vostro che sta facendo, c'eravamo solo io e tutta ragazza, sì. Arriva il vostro treno, si vede arrivare il treno da sinistra, lei esce fuori, si mette il cappello, pianta una bandierina nella banchina perché probabilmente doveva essere il segnale per far fermare il treno, sì. C'era qualcuno doveva salire, arriva questo treno di due vagoni con questa motrice e passa dritto. E non si ferma. Non si ferma, come la storia di Vercelli di ieri del treno Freccia Bianca. In un'altra maniera, c'è un seguito diverso. Sì. Ovviamente questo comincia a inveire, si leva il cappello, lo batte in terra e comincia a urlare, non posso dire come si dice da noi, comincia a moccolare contro il guidatore del treno. Certo. Quasi, inutilmente però, perché il treno se ne va. No, invece no, perché il treno tira un'inchiodata. Mette la marcia indietro e torna indietro. Cioè, beh, sentendo i moccoli del capostazione, il treno si è fermato e ha fatto la retromarcia. Straordinario. Beh, il treno ha fatto solo in Italia può succedere una cosa. No, solo con i treni di una volta, perché credo che un Freccia Bianca non possa non può fare questo. Neanche... Però è una bellissima storia. Però scusa Roberto, ci diamo del tu. Ma la parte interessante della vicenda è queste ore di attesa con l'amica. No, la cosa interessante è che nell'insieme tra la stazione e la gestione della stazione, il treno è passato a diritto, questa che rimanda tutti gli accidenti, il treno mette la marcia indietro e torna a riprenderci, cioè una cosa che io penso nemmeno nei film Poi il viaggio è andato bene, poi il viaggio dopo è andato tutto bene. Abbastanza bene, perché poi c'è andato a Lecce, però era buffissimo. Questa anche solo a raccontarsela, il viaggio è passato. Grazie Roberto, grazie buona mille, serata. Buona grazie. Serata, buon film, buona visione. Allora, e noi vi aspettiamo ancora con i vostri racconti, alla fine poi premieremo con i biglietti e il catalogo la mostra, credo, Tamara dell'Impiccica a Verona, ma c'è ancora Gauguin a Milano, il racconto più originale. Andiamo con Augusto da Bologna. Buonasera Augusto. Augusto? Non c'è Augusto. Allora spostiamoci su Roberto da Pescara. Ciao Augusto, ciao Augusto. Ci abbiamo? Pronto? Pronto. Eccolo qua. No, parla lei Augusto. Parla, si può fare Radio 24. Fare. Si può fare risparmiando gas e facendo arrabbiare Putin eccetera. Nei coi pannelli solari termici. Io a Bologna, pronto? Sì, abbiamo capito, pannelli solari termici per il momento. Vada, esattamente, Augusto. Io a Bologna, quindi a nord dell'Appennino, tengo la caldaia a fine maggio e la mi accendo a inizio di ottobre. Vabbè, d'estate ci credo, certo. È normale, e fin qua è tutto giusto. Sì, ma provo a pensare in Sicilia. Se ogni casa fosse dotata di questi pannelli, quanto gas risparmieremmo e quanto inquinamento avremmo? Ah, certo, Augusto, certo, è possibile, certo. Però io la informo che i problemi dello smog ce l'abbiamo a Milano, in pianura padana, e non in Sicilia e nemmeno sull'Appennino dove sta lei. Grazie. Comunque, Dennis da Lecco. Dennis, buonasera. Buonasera. Niente, io volevo dare un consiglio tipo Milano, grandi città italiane, sì, di utilizzare anche i biocarburanti che hanno delle ottime prestazioni. Cosa sono i biocarburanti? Il biocarburante è il biodiesel, il più famoso, che in tutto il mondo sono 30 anni e passa che si utilizza. Sì. Si produce da oli usati di friggitura, sì, perciò di seconda generazione da rifiuti, e si risparmia il 65% di PM10 in meno. Però dove si trova questo biocarburante in commercio? Dovrebbe esserci in Italia, però tutte le fabbriche costruite le hanno fatte fallire, i soliti potentati, no? Invece in Germania, in Austria, in Svizzera si può acquistare normalmente anche in stazioni di servizio e ci sono delle ottime prestazioni. Un'altra cosa molto importante è che sì, l'80% è meno di CO2. Ma mi scusi, ma è carburante prodotto dagli oli di scarto, sì, dai, delle friggitrici? Sì, sì, sì. E quanto se ne può produrre di questo? Cioè, quante friggitrici ci sono? No, beh, si fanno i recuperi degli oli usati, mm-hmm, e si possono, queste percentuali si possono miscelare col diesel. Cioè, io posso fare 80% di diesel, 20% di, certo, di carburante. Ma io la sapevo questa cosa. Quello che non sapevo però è che si abbattono anche i livelli di polveri. Cioè, lei dice, sì, che questo, sì, biocarburante 65 produce meno polveri. Ma sì, sì, è meglio del diesel, quello, sì, originale. Va bene. Il 65%, ma c'è un altro concetto molto importante, sì, quello dei PM2.5. Quelli più piccoli, più pericolosi, sì, che vengono creati dall'uscita della catalizzazione del filtro di particolato. Sì. Questa è una cosa molto, molto importante. Poi un'altra cosa moltissimo importante è il risparmio energetico. Cioè, cosa vuol dire? Se io ho una casa fredda e continuo a pompare energia nella casa e la disperdo dalle pareti, dalle finestre, io con un semplice lavoro di tamponamento di una parete con del sughero di 2-3 centimetri, quello che io posso installare, già risparmio è inutile riscaldare tanto una casa se poi lascio le finestre aperte o se comunque ho delle perdite perché i serramenti fanno schifo. Grazie Dennis, lei ne sa parecchio. No, basta, sennò ci fa un elenco di prestazioni energetiche. Eravamo al moltissimo, molto importantissimo, quindi se me lo fate dire, molto interessante. Prego. Ad Alberta in Canada, sì, meno 35 gradi sotto zero, un rione intero di una città della provincia d'Alberta è scaldata al 100% da energie rinnovabili. Cosa vuol dire? Che d'estate il calore viene prelevato dai pannelli solari termici, viene inserito con delle sonde geotermiche nel terreno, il terreno acquisisce il calore e poi viene rilasciato d'inverno e catturato in questo sistema. E questo impianto già esiste da 8 anni, viene monitorato dallo stesso governo canadese. Molto ma bene. Nessuno nel mondo ne parla, questo è gravissimo. Tutto ciò, ottimo, ci rende entusiasti e speriamo che prima o poi se ne possa parlare anche qua da noi. Ma ci sono delle eccellenze così anche in Italia, ogni tanto noi ne scoviamo. Quella del biodiesel, per esempio, l'avevamo detta, ne avevamo parlato, anche se credo che lo si possa, non si trovi in commercio al dettaglio. Cioè, non è che se tu hai un'auto a diesel puoi andare a fare biodiesel, lo usano anche gli autobus. Mi sembra difficile come organizzazione di andare a pigliare l'olio delle friggitrici. Amo Milano perché quando il sole sorge nessuno se ne accorge. Amo Milano perché non si nota, per l'Europa Italia, per l'Italia Europa. Amo Milano perché è un giardino degli Emirati e siamo tutti immigrati. Amo Milano perché ci trovi tutti i colori, gli esseri umani, i lavori, che sia bianco, che sia blu, che sia verde, che sia nero, basta che sia di neutro. Amo Milano perché è la capitale morale del commercio immorale. Amo Milano perché ti consegna tutto a domicilio, il cibo, le donne, un figlio. Amo Milano perché mi deprime ad un livello costante come un mutuo per le mie rive. Su questo Dargen D'Amico, Amo Milano, canzone di quest'anno, la conoscevi Carlo? Sì. È un bel ritratto della nostra città. Senti un po'. Diamo la buonasera a Joel Dix. Buonasera. L'abbiamo, come si dice, strappato letteralmente dalle prove al Teatro Carcano, credo di Matti da Slegare, è così? Sì, sono il regista di questo adattamento di un testo norvegese che facciamo insieme a Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta, che fanno due matti, in senso, insomma, tra virgolette, due disturbati, due con dei problemi che stanno guarendo e vanno a vivere in un appartamento e hanno la grande occasione per, insomma, per affrancarsi dal dolore, dalla fatica. È un testo molto bello, poetico e comico ovviamente, ma non solo comico. E da quando sarà in scena? Sarà in scena dal 30 di gennaio, sì. Debutta a Bagnacavallo in Romagna, e poi sarà a Milano, nella nostra Milano. Mi piace che non andiamo ad Alberta, invece, sentivo parlare di Alberta in Canada. E come mai non è andata ad Alberta, no, con Matti da Slegano? Andiamo ad Alberta, benché Alberta sia stata cantata da Neil Young, che è uno dei più bei pezzi di Neil Young, e si chiama Alberta, per cui straordinario, mando un pensiero deferente a questa. Che collegamenti è in grado di fare? Ti sta legando al tema salute e malattia, perché hai appena finito di andare in scena con la, credo, seconda sì. stagione del Malato Immaginario. Tra l'altro avremmo dovuto sentirci sì. un sabato, nel quale poi è nata mia figlia. Complimenti, volevo fare grazie, pubblicamente Gio. Le felicitazioni. che bello. Peccato che non me l'hai detto prima, perché mi sono comunque svegliato tantissimo per parlare con te. È uno scherzo che facciamo solamente quando nascono le figlie di Alessio. Grazie, questo. Grazie. con i nostri ospiti preferiti. Quelli preferiti, quelli speciali. Sì, senti, come sarebbe il tuo automobilista incazzato nero oggi che c'è il blocco del traffico? Come starebbe? Perché me lo chiedi al condizionale? Come sono stato? Malissimo, vabbè, ma sai, l'incazzatura ormai è un sentimento dimenticato, ormai l'automobilista generalmente è rassegnato, disperato, affranto, senza speranza, che non ha neanche più i diritti fondamentali, la sua macchina non ce l'ha più perché la deve condividere con altri, col car sharing, certo. Che peraltro oggi è stata la beffa, cioè io sono uscito a piedi lasciando la mia macchina nel sì. garage e ho scoperto che quelli che fanno il car sharing andavano sì regolarmente, perché quelli sono accomunati dal comune, scusa il gioco di parole, al trasporto sì. pubblico, sì. Ecco, e questo però, ti ha fatto è abbastanza, insomma, dico vabbè, ma allora poi ho visto un sacco dovevi di condividere che... la tua auto. No, io non la condivido ecco, affatto. È questo il problema. Non condivido il fatto di condividere, non per niente. No, e soprattutto ho visto un sacco di, come al solito in Italia, di deroghe, cioè sì. un sacco di gente che diceva: ma quello lì perché sta andando? Tra l'altro, a me le prove al carcano valevano come deroga, proprio dritte. Sì, certo che valevano. No, vabbè, comunque io in realtà sono andato, devo dire, ho preso la metropolitana, è stata un'esperienza che suggerisco a tanti, perché sì, e tra l'altro è bellissimo, infatti, ricordiamo che in questi giorni a Milano con un unico biglietto addirittura viaggi in metropolitana tutto il giorno, cosa che di solito anche i biglietti che valevano 75 minuti no, in metropolitana non valeva, invece adesso sì. Esatto, non solo, ma io ho attraverso questo biglietto ho preso anche due caffè e un pullover, e ho avuto il lavaggio gratis della mia auto, quindi insomma. Che senti, però dovevi portare a spinta al lavaggio. Esatto. Ma non è un po' questo il senso dell'ossessione dell'automobilista per l'auto? Cioè il blocco e finalmente ti liberi di questa ossessione. Potrebbe essere anche questa una chiave, cioè una liberazione. Per esempio, io personalmente ormai vivo benissimo senza auto. Sì, ma è vero, ma per la verità, come dicevo, l'automobilista urbano ormai è un ricordo. È una razza antico, in via di estinzione. Sì, ma anche perché forse è anche giusto così. Il problema è, c'è un senso di impotenza generale, il fatto che hai la sensazione che comunque tutte le cose che fai, che si fanno per, non servono, insomma. Beh sì, la chiacchierata che abbiamo fatto poco fa con il presidente dell'ARPA era un po' su, ci conferma quello che dici te, sostanzialmente l'attesa è perché, diciamo, l'aria non cambi molto dopo una giornata, esatto, di blocco, e quindi dice perché quindi lo facciamo? Fanno delle cose così un po' dimostrative, un po' per togliersi un pochino di senso di colpa, un po' simboliche, però, anche secondo me, per porre l'accento e mettere il riflettore sul problema. Certo, sì, però poi insomma è anche difficile, perché un po' come in tutte le grandi questioni che sono state planetarie, non si sa di non avere gli strumenti per capire che cosa si deve fare esattamente, chi dice la verità, chi no, perché è sempre come quando vai al medico, no? Che c'è sempre un medico che dice un'altra cosa. Infatti diceva il grande Bethlehem che non andiamo dai medici per avere risposte, ma per avere conferme, quindi ognuno cerca le conferme quindi cioè, io cercherei uno che confermasse che ho fatto male a lasciare la macchina in garage stamattina. Parli con un ipocondriaco, quindi ci mancherebbe altro. Anch'io cerco sempre conferme dal Senti, medico. Ma a parte questo momento, diciamo, un po' di appannamento per Milano per via di questa cappa di smog che da alcuni giorni ci opprime, però insomma è stato un anno, si è parlato una città in ripresa, eccezionale, fenomeno internazionale, bella Milano, gira questo hashtag su Twitter. Tu come la vivi la tua città? Io sono abbastanza convinto che Milano sull'Expo io non mi sono particolarmente scaldato sull'Expo, però invece sono da anni convinto che sia, ho anche dedicato quasi uno spettacolo a questa questione, cioè a quelli che tornano in campagna perché dicono che la città quindi si prendono un casale abbandonato e, senza domandarsi come mai è stato abbandonato. Cioè, tu dici sei stato abbandonato, evidentemente non si vive bene. E poi lo ristrutturano, poi ci vanno a vivere e poi scoprono che starebbero meglio in città. Sono costretti a tornare in città perché facendosi il pane da soli, il vino da soli, si rovinano il fegato. Si fa un po' di fatica. Tunnel carpale a forza di fare l'orto, eccetera. Tornano in città dove ci sono i medici, gli ospedali. E infatti la classifica del Sole 24 Ore, giusto, che sì, ha stabilito che Milano è la seconda città in cui si vive meglio, in cui la gente... Quindi non si capisce bene dove sia poi tutto questa questo è strano però, perché dove sia tutta questa negatività, però poi con un'aria irrespirabile come questa, e si sa che Milano è una città dove c'è molto smog, però evidentemente non conta per questa... No, non conta perché poi evidentemente ci sono tanti altri fattori. La longevità è un fatto milanese, cioè sta un sacco di gente. Io conosco molte persone sopra i 90 anni, ma ne conosco tante, insomma. Poi ce ne sono anche in Sardegna, in quei paesi dove mitologici, dove c'è la gente che vive anche di 120 anni, e lì effettivamente si sta veramente meglio, ma se no tutto sommato sembra che a Milano si stia meglio. Molti novantenni alla guida della macchina, magari te li ritrovi in coda. Molti novantenni, dico, alla guida della macchina, magari. Sì, molti novantenni che non mollano la patente, guai. Una delle cose più gravi, infatti, l'incubo più grande dell'autista è il giorno in cui gli diranno: guardi, gliela rinnoviamo. Secondo me quello è il momento della vera morte. Senti, ma invece questa competizione elettorale che non decolla parlando di Milano? Sì. Non si capisce. Cioè, decolla da una parte. Il centro-sinistra è fin troppo generoso, ha un sacco di candidati che vanno e vengono, Balzani. Però che si bruciano tutti poi, perché escono, non è molto chiaro. Comunque adesso il quadro si sta un po' chiarendo. Io sì, non faccio... Hai qualche preferenza? Beh, io sì, ce l'ho, ma aspetto ancora. Non è ancora il momento, rischi di bruciare qualcuno. Capisci? Proprio così. Non vuoi esprimerti tra Sala, che dice che lui ha un passato da elettore del PCI, adesso però sì, guadagna svariati milioni di euro, e la Balzani, che invece non è di Milano, tra l'altro. No, vabbè, ma sono a Milano, su queste cose non bada, nel senso che Milano... I veri milanesi sono pochi. È vero, questo ma è vero. Questo è anche un pregio, è sempre stato Milano. Non vuoi sbilanciarti, insomma? No, preferirei di no. Non oggi, dopo una giornata così amara per me, fatemi fare anche questo, come si dice, outing o coming out, assolutamente. Outing è la delazione nel momento che dici di qualcun altro. Coming out è quando dici di te stesso. Vedi, ho imparato qualcosa, potevo stare zitto, non usare l'inglese a sproposito. No, invece è perfetto, lo ricordiamo. Grazie, Gianni Dix. Grazie mille. Ti da slegare il 30 gennaio al Carcano. Comunque, adesso si può circolare. Se vuoi prendere la macchina e fare un giro subito in centro e tamponare qualcuno. Ah, ecco, sono giustamente. Certo. Mi sono fermato di lato per parlarvi, ma adesso riprendo. Alle 16, appena finiva il blocco, sei salito su una macchina qualunque e sei andato. Sono già fuori in mezzo alla nebbia, quindi questa è stata la soddisfazione di prendere la macchina e immergermi nella nebbia. Ottimo. Grazie, ciao, buona grazie serata. Grazie mille, ciao, buona mi serata. Raccomando, richiamatemi la mattina presto del sabato. Certo, alla prossima figlia. Ci tengo. No, lo faremo. Anche prima. Allora sarà fatto. Grazie mille. Grazie, ciao a tutti. Ciao, buona serata. Grande che non funziona, bella da tagliarsi le vene i navigli per non fare sfigurare Venezia e Parigi. Ma tutto vale niente anche se costa caro e non vedi le stelle per la nebbia, per la fila planetario. Cinema de sé, cinema design. Tutto vero, tra l'altro. È tutto vero che abbiamo svegliato Joelle Dix e abbiamo detto all'ultimo minuto che la puntata non andava in onda perché che sì, qualche giorno fa, il 5 dicembre per l'esattezza. Giustamente tu te lo ricordi, anche io me lo ricordo perché il giorno in cui ho dormito, perché per fortuna io t'ho chiamato, ci siamo sentiti la notte prima e quindi sapevo. Ah no, forse non dovevo dire questa cosa, perché se no si pagava la notte prima bisognava mandare un messaggino anche a Joelle Dix. Vabbè, pazienza. Sai, le 3 di notte non so se si poteva fare. Allora, tra poco c'è la pausa o subito? No, facciamo un ascoltatore. Roberto da Verona, buonasera. Buonasera. Allora, una cosa vi volevo chiedere. Anche due. Siccome questo è il palinsesto della zanzara, in pratica, voi sostituite la zanzara. Agli ordini, sì, certo. Si possono usare i linguaggi tipici della zanzara o rimanete con quello della domenica e del sabato mattina? Dipende da lei. Che dobbiamo fare? No, rimaniamo col solito linguaggio. Certo. Io avevo telefonato per le banche, per il discorso di Banca Etruria, eccetera. In difesa anche di tutti quei consumatori che hanno sottoscritto prodotti di vario tipo, senza aver capito bene quello che hanno sottoscritto. Certo. Sì. Il problema più grosso, secondo me, sono i prospetti delle banche, perché poi si va da un promotore o da un consulente della banca, questo spiega e dice un sacco di cose, poi stampa 5-6 fogli e ti fa fare 10 firme. Quei prospetti che abbiamo firmato tutti, che sono molto generici e ti dicono metti la crocetta qua, sennò non posso fare niente, non posso muovere i tuoi soldi, quelli? Esatto. Allora, io ho cercato di leggere e di capire. Onestamente si capisce molto poco, ci sono molti rimandi ad articoli che non si conoscono. È vero, bisogna comunque fidarsi del bancario che si ha di fronte, su questo non c'è, perché se uno dovesse mettersi a leggere tutto non so poi se tecnicamente è comprensibile a una persona normale anche quello che c'è da leggere, no? E credo che questa sia l'esperienza di tutti. Quindi, Roberto, conclusione? Quindi il problema sarebbe facilmente risolvibile, perché se il governo o lo Stato imponesse un prospetto chiaro più e semplice. Sì, questa è una battaglia anche del Sole 24 Ore ed è sacrosanta, perché e questa è una cosa vera. Anche sì. Leggibili, perché c'è anche un problema di leggibilità. Sì, però secondo me in realtà è verissimo questa questione del prospetto, ma molte volte ci si ferma al prospetto perché uno dice se vuole che io investa i suoi soldi in questo modo lei deve dirmi che un pochino di conoscenza ce le ha, se no io non posso assolutamente investire i suoi soldi, ed è lì un po' che secondo me si crea il problema, perché nel momento che io mi fido o non mi fido, diciamo, del mio promotore, voglio che i miei soldi vengano investiti perché non voglio che rimangano semplicemente sul conto col tasso di interesse che ormai è pari allo zero, e quindi dico va bene, fingo di sapere un po' di cose in modo che lei possa investire, o sbaglio? Sì, è vero anche questo, è vero. Sì, cioè, però l'anomalia sta nel fatto che non è riscontrabile quello che si firma. Se il prospetto elencasse semplicemente quello che è certo e comprensibile, perdere tutte le norme che sono tecnicismi. Uno sa che mette 100 e nella peggiore delle ipotesi recupera 99. Vabbè, mettiamola così, Roberto, mettiamola così. Intanto grazie, buona serata, mettiamola così. Sicuramente semplificare questi prospetti non fa male a nessuno, non fa male al risparmiatore, anzi, farebbe molto molto bene. Poi che sono d'accordo con te, Carlo, che ci sia in certi momenti la voglia, no, di non guardare fino in fondo, di no, magari per comprarti lo smartphone stai ore e ore a confrontare sui siti, poi vai in banca e affidi 20.000 euro semplicemente perché ti hanno una pacca sulla spalla e ti dico, ma soprattutto c'è il desiderio, se compriamo il giornale vediamo tutta la finanza e quelli che si arricchiscono tantissimo stando a casa ma semplicemente investendo, tutti hanno il desiderio di investire, invece la questione è che in teoria quello che dice questo prospetto è che tu puoi investire solamente se sei un esperto di economia, e gli esperti di economia ce n'è molto meno di quelli che invece le banche vorrebbero che investissero. Andiamo in pausa, torniamo tra un istante. Audiogrammi speciale Natale. I grandi classici del cinema e della letteratura raccontati alla radio. You are a cinema, I could... Giovedì 31 dicembre, tornate bambini. Vivrete l'emozione di una grande storia, come mai l'avete ascoltata. Vi aspettiamo giovedì 31 dicembre alle 22 su Radio 24. Audiogrammi in radio come al cinema. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sono lontano da 5 anni da ogni attività politica e ora penso invece di candidarmi a sindaco attraverso le primarie e dunque di sottopormi nel modo più umile al giudizio dei cittadini. E questo è Antonio Bassolino che in una trasmissione di ieri, credo, ha confermato che intende candidarsi come sindaco di Napoli. A volte ritornano 800 24 00 24. Franco da Genova, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Dunque, premesso che se si accertano delle truffe, allora lì non ci piove che vanno sanzionate. Giustamente sanzionate. Quindi, premesso questo, io dico che quando si fanno investimenti di 50, 20, 30 mila euro e poi a persone anziane, queste persone anziane invece di risparmiare dovrebbero spendere i soldi, perché ormai la loro vita, diciamo, non dico al termine, ma quindi dovrebbero godersela la vita. Vabbè, però invece, questo lo lasciamo al singolo, che ognuno decide se preferisce lasciare i soldi ai propri figli oppure spenderli. Sì, però non ci siamo. Beh, se ne godono i figli, va bene. Diciamo che noi siamo un popolo di pecoroni e ignoranti. Dove non c'è scienza, c'è scemenza. Quindi chi ha investito ben sapendo di... perché con la crisi che c'è dal 2010 i soldi non ci sono, si sapeva benissimo che i rendimenti dei bot eccetera erano minimi. Come si può pretendere avere anche un rendimento del 6-7% quando i bot erano allo 0,1? Quindi, cioè lei dice quindi, era risaputo. Però è difficile, che forse lei è un esperto. Quindi, no, non sono un esperto. Però su una cosa do ragione all'ascoltatore, che ci sono state diverse crisi, sono anni che sappiamo che ci sono state crisi legate ad investimenti, a speculazioni, investimenti finanziari, dalla crisi dei subprime in avanti, sono passati ormai diversi anni, non credo che bisogna leggere per forza Sole 24 ore tutti i giorni per sapere che un po' di attenzione quando affidi tutto il tuo TFR a qualcuno ce lo devi pur mettere. Sì, però se è la tua banca che dove ci vai da 30 anni e ti assicura tra l'altro un guadagno del 3,15, non te lo assicura, ti dice, ti parla di un possibile guadagno del 3,15%, non mi sembra che sia un'evidente speculazione di cose molto rischiose. Il 3,15 non è un numero così alto. Titoli da 7. Emergenza smog a Milano, deserto irreale per il blocco delle auto, a Roma tardi alterne, verso la circolazione ridotta anche molti altri comuni. Difficile capire se la situazione sia migliorata, di certo le misure antitraffico non bastano, per uscire dall'emergenza serve la pioggia che secondo le previsioni a partire dal 1 gennaio arriverà. Il CSM ha deciso, il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi può continuare a indagare su Banca Etruria. Il suo ruolo tecnico nel rapporto di consulenza con Palazzo Chigi non mette in discussione l'imparzialità. La decisione arriva nelle ore in cui ad Arezzo i risparmiatori sono scesi in piazza, pochi per la verità, tra accuse all'istituto e gli altri obbligazionisti truffati che non hanno sostenuto la protesta. Anche se Hollande si complimenta con l'esercito iracheno, non si è ancora davvero conclusa la battaglia per la riconquista di Ramadi. La città irachena è ora sotto il controllo dei militari di Baghdad, ma molti miliziani dell'ISIS occupano ancora diverse zone con mine, cecchini e kamikaze. Vogliono la controffensiva sull'esercito appunto iracheno. Pur di non aumentare il prezzo del greggio, l'Arabia Saudita aumenta quello dei carburanti a casa sua. Se il governo di unità nazionale reggerà presso sul mercato nuovo petrolio libico dalla Russia, l'accusa di destabilizzare il mercato. Trend del prezzo ribassista, di positivo ci sono le bollette meno care di luce e gas anche per noi, a partire però dal 1 gennaio. Gli stranieri vengono in Italia soprattutto per cercare lavoro, ma negli ultimi anni la crisi ha colpito in particolare proprio loro. Secondo l'Istat, tra il 2008 e il 2014 il tasso di disoccupazione è cresciuto a ritmo doppio rispetto a quello dei lavoratori italiani, soprattutto tra gli uomini. Il 2015 il Movimento 5 Stelle si chiude con una nuova espulsione, quella della senatrice Serenella Fucsia, cacciata da oltre il 92% dei votanti sul web. L'accusa è quella di non aver restituito al gruppo parte dello stipendio da parlamentare. I rendiconto sono una scusa, Grillo ha perso il controllo, ha replicato la senatrice. La vera accusa sarebbe quella di essere troppo filorenziana. Dopo il discorso della ministro Boschi aveva scritto pubblicamente chapeau. Oggi giornata del blocco delle auto a Milano e sarà così anche domani e dopodomani. Cari ascoltatori, vi chiediamo i vostri viaggi più originali, più strani. Per esempio ci ha chiamato quello che è salito sul treno che è tornato a retromarcia in stazione, ma anche viaggi a basso impatto, perché è giusto premiare anche chi viaggia. Il treno è basso impatto. Treno è basso impatto, bicicletta, a piedi. I vostri viaggi più alternativi. 800 24 00 24, il racconto più bello vince anche questa sera un piccolo premio. Il mio primo volo in aereo, Reggio Calabria-Milano, con un caravel di nome Caronte. Questo era scritto sulla prua dell'aereo. Immaginate voi, ci scrive Alfonso. Beh, molto bello comunque, perché io non salirei su un aereo dove c'è scritto Caronte. Così dice, mi scusi, qual è la destinazione? Potete usare anche i nostri social, si può fare trattino Radio 24 la pagina Facebook, si può fare 24 l'account su Twitter, poi ci sono i nostri account, il mio è chiocciola Le Maurizi. E il mio è chiocciola Carlo Gabardini. Che noi siamo quelli del sabato e della domenica mattina. E adesso siamo qua a traghettare fino al 31 dicembre. Allora, dove andiamo? Stefano da Napoli, vuoi sentire? Volevi dire qualcosa, cara? No, è una cosa... Avanti. Stefano, buonasera. Sì, sono io Stefano, pronto? Prego. Anche noi siamo Posso noi. Posso parlare? Certo. Sì. Senta, io chiamo da Napoli, no? Dunque, guardi, qui grandi industrie non ce ne sono. C'è il porto che inquina un po'. Sì. E quando riguarda il riscaldamento, poi, non lo usa quasi nessuno. Oggi, per esempio, fuori sono 15 gradi. È caldo. In casa mia sono 20 gradi. Ma infatti a Napoli non c'è lo smog. Accendiamo per qualche ora. La colpa è delle auto. A Napoli ci sono 6.000 auto per chilometro quadrato. Scusi, però mi sono perso. 6.000 sono molto poche. Scusi, Stefano, ma ci sono sforamenti delle PM anche a Napoli in questi giorni? Guardi, io non ho mai visto l'inquinamento. Io abito in una zona collinare, via Petrarca. Sì. C'è l'inquinamento, si vede a occhio nudo l'inquinamento. No, ma le sto chiedendo, c'è lo sforamento delle PMI a Napoli in questi giorni? Glielo chiedo perché non lo so. C'è il blocco del traffico a Napoli, no? C'è un'ordinanza dal mese di ottobre che esclude quelle macchine vecchie, ma non abbiamo combinato proprio nel... Qua bisogna fare una grida, come dicevano anticamente, una macchina per famiglia, non di più. Per qui le famiglie hanno 4-5 macchine. È vero. Sono vecchie abitudini, dure a morire. Però, insomma, per esempio a Milano credo che 4 macchine in famiglia non ce l'ha quasi più nessuno, sì. Magari sì. Questo non te lo so dire, parli con uno che non ha anche la patente. Adesso con la diffusione del car sharing, per esempio, in molti rinunciano anche a comprarsela la macchina, perché l'hai a disposizione quando vuoi, come vuoi, dove vuoi. Costa poco. Quello è molto comodo, molto comodo, sì. Anche le biciclette sono molto comode. Poi Stefano, comode. A Napoli, insomma, non credo che lo smog sia un grosso problema. Non lo so, magari sto dicendo una bestialità, magari c'è un'aria irrespirabile a Napoli, però non mi risulta. Vista mare, c'è un po' di vento, credo, no? Direi che tra i vari problemi, quello non è tra i primi, non è tra i maggiori problemi. Un po' come di in Sicilia, Napoli. Il traffico. Ezio da Verona, buonasera. Sì, pronto, sono io? Prego, certo, cioè speriamo che sia lei. Sì, sono io. Volevo raccontare una storia molto particolare. Risale ancora ai tempi di quando facevo il servizio militare. Ero militare a Firenze e ero in licenza a Milano. Alla stazione di Milano prendo il treno verso mezzanotte per rientrare a Firenze e io ero ormai che mi mancava un mese al congedo. Trovo sul binario della stazione un mio compagno d'armi che era, non so, sarà stato al secondo mese, preoccupatissimo. Come faccio per essere sicuro che ci svegliamo? Dico, non preoccuparti, guarda, io ho un orologio biologico interno che arrivo a pochi chilometri da Firenze, mi sveglio. Avete perso la stazione, ho già capito. Eh? Avete perso la stazione. Aspetta, lui aveva portato una sporta di giornaletti da leggere per tutto il tratto per stare sveglio. Ma figurati Filippo, non preoccuparti. Ma che tipo di giornaletti? Vabbè adesso. Di tutti i tipi, text, no, anche qualcosa un po' più osè, ma poca roba. Volevamo capire questo, se per tenersi svegli c'erano dei giornaletti, se no... Più interessante. Va bene. No. Quindi? Comunque il bello è che io, fidati. Dopo un po', ovviamente, ci addormentiamo. Che ora era? Mezzanotte siamo partiti, all'una ci avevamo addormentati. Perfetto. Siamo stati a Piacenza, non lo so. Ad un certo punto albeggiava, mi sveglio e vedo che il treno sta entrando nella stazione di Indicatore, che è una piccolissima stazione vicino ad Arezzo, quindi ben oltre Firenze. Avevate proprio mancato la stazione, vi eravate addormentati tutti e due come polli. E che è successo? A quel punto poi avete preso un altro treno, siete riusciti a rientrare in tempo in caserma? Non è finita lì, perché il pazzo prende la borsa, corre, lascia lì a me tutti i giornaletti, urlandomene di tutti i colori, e scende a Indicatore. Io dico, aspetta, andiamo fino a Arezzo e torniamo indietro. No, lui scende lì. Allora io arrivo ad Arezzo, parlo con il personale lì, chiedo qual è il primo treno che torna a Firenze, dice guarda ce n'è uno che parte fra 10 minuti, però non ferma Indicatore. Allora chiedo al capotreno se può chiedere al conducente di fermarsi se vede un militare. Perché lei voleva recuperare il suo amico. Lei voleva tornare e recuperarlo. Bravo Ezio, buono. E l'ha recuperato l'amico? Sì. E siete riusciti a entrare in tempo in caserma oppure no? Ci dica solo questo. Caserma me ne sono sentite dire dal mio capitano, da lui. Alla fine siamo diventati amici. Avete passato un brutto quarto d'ora. Va bene, grazie, buona serata. Una bella storia, perché obbligare un treno a fare una fermata in più semplicemente per recuperare un amico mi sembra molto bello. E poi il treno è sempre un mezzo, abbiamo detto, buono, va bene, no? Un mezzo sostenibile. Quindi viva il treno, traffico. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta Si può fare cronache da un paese migliore. Scambio corto limite dell'area, contropiede catenaccio lancio per il cross, doppio passo rima dei poeti, finta e tiro rosa terra per un pelle gol, stop al volo zona Cesarini, sganciamento e spinta dei terzini, tiro nel sette magico pallone, l'urlo del campione, cronista squadra corte pressing, incornata scivolata fallo tattico, punizione contro la barriera, disimpegno per il 10 che è scoppiato un po', viva il parroco campo pesante, pallonetto e dribbling ubriacante, quattro volte sontuosa Mina, però questa non è una storia bella, non è una storia a lieto fine, cioè è una storia che ha un lato bello e un lato meno bello. Cioè il calcio ci sono le donne, quindi Mina era perfetta come canzone, perfetta. Ma la storia non è allegra per niente. È la storia del Sporting Locri a 5 di calcetto femminile. Buonasera al presidente della squadra, Ferdinando Armeni. Buonasera a voi. Buonasera. Lei, presidente, ha detto di aver ricevuto delle minacce ed è questo il motivo per cui vuole ritirare in pratica la squadra ritirata dal campionato di Serie A a calcio a 5 femminile, che è una eccellenza per una cittadina della Calabria come Locri, tra l'altro. C'è stato tutta una serie di appelli che le hanno chiesto di cambiare idea, dal presidente della FIGC Civitavecchio al presidente del CONI, Malagò, tutti. Prima di arrivare a questi messaggi di solidarietà, e cosa ne pensa lei, se per caso avesse cambiato decisione oppure no, ci racconta che cosa è successo esattamente? Nello specifico abbiamo ricevuto 4 biglietti di minacce anonime, sia io, il vicepresidente e anche l'ex presidente, nonché ora presidente onorario della società. Queste prime tre ci hanno colpito tutte e tre, una una volta ciascuno. Quando sono arrivati questi messaggi? Il 7, l'11 e il 19 dicembre. Quindi tutti più o meno ravvicinati. Sì. Questi messaggi hanno un attimino turbato quello che poteva essere l'ambiente, però comunque abbiamo portato avanti l'attività senza realmente pensare che potessero avere delle conseguenze reali, sfociare in altro. Poi però purtroppo il 23 dicembre nella mia auto trovo l'ennesimo biglietto di minaccia di dove indicava di chiudere la società. Sì. Però poi con una frase finale che ha lì mandato in tilt un po' tutti quanti, è vero. C'era scritto poi alla fine: solitamente chi si siede in questo posto, e hanno messo il bigliettino sul lato passeggero dove di solito sta suo si mette i bambini. Sì. Dove solitamente porta sua figlia, che ha 4 anni. Sì, logicamente i bambini stanno nel seggiolino e stanno dietro. Certo. E quindi questa cosa ovviamente è stata ovviamente ha devastato la serenità familiare e di tutti, perché comunque è andata ad alludere una bambina. È evidente. Ma lei che cosa ha pensato? Cioè, a chi ha pensato? Per quale motivo qualcuno può avercela con lei e con la sua squadra? Tecnicamente purtroppo ancora non lo so. Cioè, le autorità stanno indagando. Sì, stanno indagando, stiamo in stretto contatto per decisionare tutto. Purtroppo ancora non lo so, si sta purtroppo infangando quello che è il nome di Locri e della Calabria, perché per questi quattro sciacalli che hanno operato tale gesto. Però purtroppo, visto che hanno toccato i bambini, quindi vuol dire che gente che gioca senza regole, ci hanno messo davvero in grosse difficoltà, perché noi crediamo che non succeda nulla, ma se succede poi che facciamo? Perché lei sta in un territorio, giusto dirlo, dove spesso a queste minacce seguono delle conseguenze reali, questo bisogna dirlo. Sì, però un discorso di questo è di un pazzo che viene a scrivere sui bambini, perché dubito che l'alto livello di malavita possa andare a toccare i bambini, Sì. Ma però mi scusi, siccome l'ho sentita diverse volte dire appunto non è l'andrangheta, adesso giustamente dice non è l'alta criminalità, sono quattro sciacalli, ma chi, nel senso, che idea si è fatto per poter dire che sono quattro sciacalli e che non è l'andrangheta? No, aspetta, io ho detto anche questo, premetto, l'idea del modus operandi della classica andrangheta non tocca i bambini, poi se cambiate il modus operandi abbiamo visto anche delle eccezioni, le abbiamo viste delle eccezioni, quindi non mi attaccherei molto sul codice d'onore. Lì parliamo davvero di situazioni molto molto più gravi, no, rispetto ma soprattutto io a quello che noi, mi scusi, io quello che mi chiedo dubbio, uno, ma quale può essere una motivazione, che sia l'andrangheta, che non sia l'andrangheta, che siano quattro sciacalli, quale può essere la motivazione per cui uno desideri che il Locri non scenda in campo? Sì, perché in effetti insomma, ora con tutto il rispetto diciamo, perché purtroppo così non ci lasciano capire contro chi lottiamo, soprattutto perché possono essere invidiosi di dove è arrivato e di quello che fa questa squadra. Può essere il fatto che le ragazze stanno in un ostello confiscato alla mafia. Non lo so, quindi per attaccare lo Stato, le ragazze della squadra dov'è che stanno in un ostello confiscato alla mafia? Esatto, praticamente con il comune a darci una mano, sì. Nel frattempo che si avviasse il bando pubblico come la procedura e tutto il resto, si è detto vi do una mano, non posso, logicamente no, ci si dà una mano e nel frattempo facciamo un progetto sperimentale. È stato lo stello, no? Quindi quindi questo potrebbe avere anche risvegliato infatti qualcuno. Però senta, io le voglio chiedere questo, perché quando si subisce una minaccia, immagino che quello che poi conta è sentire o non sentire della sicurezza intorno a sé da parte del contesto, dei parenti, amici, familiari, la polizia, le forze dell'ordine. Lei questa sicurezza attorno a sé la sente o no? Adesso sì, sto vedendo forze dell'ordine che mi rondano attorno in qualsiasi momento, anche loro ci sentiamo spesso e proprio li noto da questa vicinanza e ovunque vado vedo che ecco c'è la ronda che comunque sta al seguito. Però questo non è sufficiente a farla cambiare idea? Il problema, sai, non posso prendere queste persone stiano attorno a me, né tantomeno li voglio vivere così. E poi non so, io gestisco 60 persone all'interno dello Sporting Lotto. Non è che gestisco solo una, allora è più facile. Io che ne so che se succede qualcosa a qualcuna delle ragazze o qualche altra situazione, poi che faccio? Non succede nulla, ma se succede... No, no, è molto chiaro. È molto chiaro. Io nel dubbio, cioè alla fine dico io combatto. Ma infatti secondo me è anche interessante, era per questo che le chiedevo, nel senso come mai poteva escludere qualcuno e chiamarli quattro sciacalli. Adesso lei parla di invidia, che mi sembra interessante, ci ha pure detto che le ragazze che vivono tutte insieme in un ostello che è una casa confiscata alla mafia. In realtà una delle cose, in una bella intervista di Rosanna Rovito, che è una sua giocatrice, sì, lei dice: ma soprattutto ci stanno togliendo il nostro sogno, che è quello di giocare e vincere e dimostrare che si può far bene in una terra difficile come la Locride. Da queste parti non c'è nulla da fare per i ragazzi e le ragazze, il calcio è una delle poche cose belle. Ecco, allora forse mettendo insieme le cose, io aspetterei ad escluderla la criminalità organizzata, perché più che chiamarli quattro sciacalli mi sembra che stanno... Sono ipotesi, ma comunque sono sempre sciacalli, perché non si può venire a turbare un ambiente per un motivo che non c'è un altro valore di motivo, perché a livello uno può pensare a livello economico, ma un ASD di calcio a 5 femminile non è, esatto, che immaginiamo che non girino, quindi, grande quantità di denaro, ma che devono girare, non, esatto, è normale, siamo, quindi come tutte tali, senta, ma gli inviti ad andare avanti, non gestiamo, sì, nulla, quindi alla fine Armeni, gli inviti ad andare avanti che sono arrivati, per esempio il presidente della regione Calabria dice andate avanti con coraggio, non siete soli. Sì, mi ha chiamato il presidente Oliveri, ma ha chiamato anche il presidente della sua provincia, siamo a contatti col sindaco di Locri per tutto quanto, questo mi fa piacere, senza ombra di dubbio. Però non la fanno cambiare idea. Però io dico che anche Managò e tutti gli altri, però io sono qui apposito lì. Ora, che ne so io dopo che si sgonfia un po' tutto come succede da tutte le parti. Cioè la paura poi, è questa, è che nel momento che si spengono i riflettori voi di nuovo siete soli. Poi? Non dico solo che siamo soli, però comunque il problema potrebbe sempre nascere. Io, ripeto, faccio passione, lo Sporting Log l'ho creato io, l'ho costruito io, è una vita per me, e quindi per me muore un pezzo di me in tutto ciò, perché non sono un manager di una società che oggi gestisco la tua, non mi piace, me ne vado, già faccio un'altra cosa. No, certo, l'ho costruita io, quindi come ciascuno di noi che costruisce un qualcosa poi la deve buttare, non penso che sia contento, no? Perché sono messo lì sudore, anni, tempo. Sì. No, è interessante quello che lei dice, perché lei Armeni sta un po' rovesciando quello che normalmente è quello che si pensa, no? Che di fronte a una minaccia ci aspettiamo sempre la reazione eroica, vado avanti, no? Tutti gli appelli la invitano ad andare avanti, invece lei ha fatto scrivere sul sito della società chiuso per dignità, cioè lei dice io trovo dignitoso fermarsi di fronte a una minaccia se non si è sicuri di quello che, a cui si va incontro. Certo, appunto, perché comunque non siamo nelle fiction, non faccio gli eroi. Però io stavo in un tutt'altro contesto, ma non perché ho paura, ma perché comunque è una responsabilità troppo grande, e alla luce di cosa io metto in discussione tutto? Per un pallone, per un hobby, per una passione? Cioè gioco, vai alla candela, per un hobby fa tutto solo questa situazione? Allora io dico, lo posso fare per la mia attività lavorativa, per la famiglia, me lo conto, ma l'otto è col coltello fra i denti, sì. Ma qua stiamo parlando di una passione, ragazzi, un pallone. E cosa potrebbe accadere per farle cambiare idea, Armeni? Cosa potrebbe accadere? Che prendessero i responsabili? Vabbè, già questo sarebbe una grande situazione. Ma esiste la possibilità, quindi, che prendano i responsabili, secondo lei? Ma anche con... spero, se no saremo un attimino un po' invogliati, però spero che prima o poi comunque qualcosa salti fuori. Nel frattempo comunque lascio lavorare le forze dell'ordine, certo, che realmente mi sono vicine e che ci stanno sentendo quotidianamente su tutto quanto. E le giocatrici della squadra cosa dicono? Sono con lei? Le giocatrici, come ho sentito, sono quando voglio di voler giocare, hanno però anche loro sono un po' titubanti, per dire comunque mi stanno vicini, giustamente decidete la scelta migliore anche per noi, anche se c'è una volontà proprio massimale di tornare a giocare. Purtroppo al momento, ripeto, non c'è uno status mentale sereno che possa portare una lucidità di gestire tutto quanto. Quindi al momento, il 10 gennaio, voi non sarete in campo con la Lazio? Al momento, per quanto riguarda la mia gestione, no. Però, tanto io sono romanista, detto, quindi mi darebbe soddisfazione se andasse e battesse la Lazio, io sarei felice, però se proprio non vuole... no, il discorso che il campionato tra l'altro sta andando pure bene quest'anno, oltre anche gli altri anni, quindi stiamo andando pure bene, siamo quindi in classifica, 3 punti dalla zona dei playoff e quindi anche dalla final 8, quindi sono degli aspetti che veramente mi taglia ancora di più. Ma le faccio una domanda che forse è dolorosa, nel senso che ho sentito che lei ha detto: io cedo anche gratis la società. Sì, per il bene che voglio verso questa società, verso le ragazze, perché comunque c'è un rapporto, un'empatia particolare, viscerale, anche perché comunque siamo una famiglia tutti quanti. No, ma questo è chiarissimo. Non mi piacerebbe, quindi sono anche disposto a che comunque la società ha un valore commerciale oggi. Ma quindi è un'eventualità possibile? Sì, ho detto se entro il 10, voglia, ma entro il 10 gennaio secondo lei no, è possibile? Dovremmo trovarle quanto prima, entro 1 o 2 giorni questa situazione. Ah. Perché se no comunque non c'erano i tempi tecnici. Poi per questo mi chiedevo. E c'è qualcuno che si è fatto avanti? Al momento ho avuto, mi ha trascritto, col quale spero domani di poterci parlare, 3 persone però del nord. Sì, che si sono fatte 3 persone, tre di diversi imprenditori. Qualcuno che c'è anche un'altra società, quindi non ci dica che Berlusconi compra l'Ocri, perché sarebbe uno scoop straordinario. Sì, questo è affitto di donne, quindi è in questa short list di 3 persone c'è anche Silvio Berlusconi? No, perché sennò avremmo risolto tutti i problemi. Senti l'inno e vivere un bel sogno. Sembra un po' brasiliano, eh? Ha realizzato un cantautore, tra l'altro, della nostra terra. Pure. Vedi, tutto a chilometro zero, anche l'inno. Armeni, in bocca al lupo, grazie. Speriamo che vada tutto bene, che si risolva. Noi speriamo sempre in un lieto fine, naturalmente, sempre, ma in questo caso in particolare staremo a vedere. Però il problema è serio, la questione è seria. Speriamo di richiamarla e che lei ci dia delle notizie straordinarie. Vediamo come si mettono un po' le situazioni, ma ne abbiamo degli incontri anche col sindaco, perché comunque non ci sarebbe anche una predisposizione da parte sua, insieme ad altri sindaci, vediamo se può nascere. Forza! C'è volontà fattiva a fare tutto. Grazie mille. Grazie a voi per la complimenti. Buonasera, ragazzi. Arrivederci, buona serata. È tempo di lottare. Penso che mi troverei anche nella stessa ambascia sua, cioè cosa fare? Mettersi a fare l'eroe, provare a resistere, perché tutti te lo chiedono. Ha detto una cosa stupenda, fermarsi. Non siamo in una fiction, la maggior parte delle volte quando leggiamo queste notizie c'è un po' che ci si aspetta, come dicevi tu, la reazione da fiction, uno dice ma come, adesso il gesto eroico. E la cosa più bella sua è stata: io se fossi da solo posso anche lottare, ma non posso prendermi la responsabilità di altre persone, tra queste altre persone c'è pure sua figlia di 3 anni e mezzo che sedeva al seggiolino dove è stata messa la minaccia, sottolineando che a quel seggiolino siede di solito sua figlia di 3 anni e mezzo. Borsa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Funky up, uptown funk you up. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, cari ascoltatori, restate con noi, perché tra un poco avremo una di quelle storie si può fare, che uno dice: ah, bella, un lieto fine, una bella storia, di quelle che ti tirano vero su si può fare. Il morale, sì, che tutto funziona, tutto va bene, di quelle che ci piace a noi di raccontarvi ogni sabato e domenica mattina. Ci piace scovarle soprattutto, perché detto così sembra tutto va bene, dai, non è che tutto va bene, ma però ci sono alcune storie che mostrano che forse esiste la possibilità di risolvere alcuni problemi in maniera migliore. Giuseppe da Vercelli, buonasera. Buonasera. Buonasera. Io volevo raccontarvi del mio viaggio di nozze a basso impatto ambientale. Ah. Prego. Che è praticamente partito da Château-Gontier, un paesino in Bretagna, ed è proseguito verso Mont-Saint-Michel, che è in Normandia. Ma scusa, il viaggio è partito in Bretagna, nel senso che ti sei sposato in Bretagna? No, no, Cioè la prima tappa del viaggio a Trino in provincia di Vercelli. Ok, ottimo. E poi sei partito per il viaggio e sei andato in Bretagna. La prima parte, diciamo, ha avuto un certo impatto ambientale perché in macchina siamo andati fino a Château-Gontier. Ah, stavi cancellando la parte con impatto ambientale. Poi a un certo punto hai fatto 6 km in bici e ci racconti solo quelli, quindi dici: vedete che piccolissimo impatto ambientale, non vale così, non vale. No, scusa, abbiamo lasciato la macchina e poi abbiamo proseguito per Mont Saint-Michel e da lì lungo tutta la costa della Bretagna fino a Brest, quindi percorrendo circa 600 km in bicicletta. Ah, tu e tua moglie, tu e tua moglie, solo voi due? Io e mia moglie, sì, perché eravamo in viaggio di notte e quindi ero con lei. E non c'è stato un momento di cedimento, di crollo a metà di questo? Qualcuno che era infacciato all'altro, che ideaccia che hai avuto, una cosa del genere? Potevamo prendere il Concorde. Potevamo prendere il treno, no? No, perché poi, cioè, 600 km sembrano tanti, ma in realtà, fatti in 15 giorni, sono poi... 30 al giorno? Se sei innamorato, sì, sembrano 40. Pochi, se no per tutti gli altri sono tanti 600 km comunque da fare in bici. No, ho fatto male il conto, 30 al giorno, ho fatto male, 600 km in 15 giorni, 40. Circa 40 km al giorno, sì. Poi vabbè, c'è stato un giorno in cui ne abbiamo fatti 90 e forse un giorno... E poi avete divorziato infatti il giorno dopo? No, poi siamo arrivati a Brest, abbiamo preso il treno, siamo tornati a... siamo arrivati ad Angers e ad Angers abbiamo noleggiato una barca, non so come chiamarla, un piccolo yacht se vogliamo, perché era Vi siete rifatti nel lusso più sfrenato. Sì, e abbiamo fatto questi ci hanno fatto un piccolo corso che è durato un'oretta per capire come, più che altro, sì, come attraccare controcorrente lungo il fiume. E poi queste barche hanno una velocità limitata a 10 miglia o 10 km orari, quindi grossi rischi. Abbiamo risalito il fiume La Mayenne fino, sì, a Château-Gontier, dove abbiamo... Ma le bici poi le avete abbandonate? No, le bici le abbiamo messe sul treno e poi sulla barca. Vabbè, un viaggio discretamente avventuroso, nonostante, insomma, foste in Francia e quindi niente, cioè non è che eravate in una meta super esotica, però bello, ma siete due ciclisti già allenati, tu e tua moglie? Avevamo fatto la prima qualche volta, viaggio, uno da Vienna a Budapest lungo il Danubio, sì, e uno in Sicilia di Va bene, va bene, Giuseppe, grazie, che partecipi anche tu naturalmente al gioco di questa sera. Beh, un bel viaggio, a me piacerebbe, il cicloturismo è una, secondo me, una cosa, una figata. Non credo che potrei riuscire a convincere mia moglie a farlo, perché... Ma nemmeno me, sai? No, non credo che faccia per lei, però a me piacerebbe. 800 24 00 24, cari ascoltatori, poi tra poco, tra un quarto d'ora diremo chi ci ha convinto di più con il suo viaggio alternativo più originale, più interessante. Valeria da Firenze? Sì, ciao, ci sono. Eccola, ci siamo anche noi. Ciao. Buonasera. Sì, io volevo non parlare del viaggio, ma di un po' di Banca Etruria, nel senso, volevo portare la mia esperienza, che però diciamo è diversa, nel senso, in questi, sì, giorni si sente molto parlare di queste persone che ci hanno rimesso i risparmi sul discorso della banca, delle obbligazioni. La mia esperienza è diversa, nel senso che mia mamma è mancata nel 2009, noi dopo 3 anni abbiamo saputo che lei aveva solo ed esclusivamente una polizza di 24.000 euro, non aveva altri risparmi, non aveva una casa, quindi non c'era nessun tipo di successione da fare. Siamo andati alla banca con la lettera di comunicazione, ha detto: ci dispiace, è troppo tardi, sono passati 2 anni, la polizza è prescritta e andrà nel fondo di garanzia di non so che. Quindi, avete perso tutto? Perso tutto, non si può fare niente. Io ho un fratello con un handicap totale del, sì, 100%, quindi voi potete immaginare quanto comodo anche per lui ci avrebbero fatto questi pochi risparmi, tra l'altro, perché, sì, erano veramente, cioè, lei dice, insomma, non c'è solo Banca Etruria, ci sono tanti altri casi, esatto, purtroppo. Esatto, solo che Banca Etruria ora si fa notizia, si sente parlare. Sì, sì. Io non saprei a chi rivolgermi, non ho chiesto alla banca ovviamente il disinvestimento, perché Non voglio assolutamente che i soldi, gli unici risparmi di mia mamma, vadano a non so chi. Ma non ho capito, nel senso che va in prescrizione, dopo solo due anni lei non può più riavere i soldi. La legge è cambiata, per cui la prescrizione l'hanno spostata a 10 anni. Purtroppo io sono rientrata, io e mio fratello, in quel periodo, per cui andavo in prescrizione dopo 2 anni. Vi chiedo, è giusto questo? È giusto che... Credo di no, credo di no. Direi proprio di no. Però un bello studio di avvocati, un amico avvocato, non ce l'ha un'associazione di consumatori? No, purtroppo no. Ora magari proverò a sentire la banca, sì, quando sono andata a sentire... Non si arrenda, non si arrenda, provi. Senta l'associazione delle vittime del salvabanche. Mi raccomando, ci provi, perché bisogna sempre provarci. Grazie Valeria. Grazie, buona serata. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Arrivederci, buona serata. Mettiamo un tubo dall'Africa all'aeroporto di Milano. Arrivo ai controlli con la boccia d'acqua in mano. Ogni volta mi fanno buttare l'acqua, la butterei dentro il tubo e fanculo i sensi di colpa. Ho idee per cambiare il mondo, ma per realizzarle non mi bastano i soldi sul conto. È come nel poker, svoltiamo solamente se ci arriva una buona mano. Una ricetta da inventare, dalla me. Una cappa per pensare, dalla me. Se hai violenza da sfogare, dalla me. Se ti senti da sola, baby, dalla me. Io sicuramente non la spreco. Io sicuramente non la spreco. Io sicuramente non la spreco. Io sicuramente non la spreco. Insomma, tutte le nostre canzoni le trovate nella playlist poi sulla pagina di Si Può Fare, sul sito di Radio 24. Questa è Rezofonic, dalla A me una canzone antispreco. Chissà quanto cibo sarà andato sprecato in questi giorni di festa. Carlo, immagino che anche a casa tua si sarà mangiato tantissimo, ma il 26 a Milano, come la tradizione, c'è la cena degli avanzi o anche il pranzo degli avanzi, quindi io ne ho ancora, quindi ho fatto anche il 27 e farò anche oggi un po' di avanzini. Allora, ogni anno buttiamo via un sacco di cibo. Quanto ce lo può dire per esempio Francesco Ardito, ideatore della app Last Minute sotto casa? Buonasera Francesco, non c'è ancora? Buonasera. Alessio, Carlo e buonasera a tutti gli ascoltatori, ciao a tutti. Allora, sul vostro sito voi riportate proprio anche queste cifre, quanto cibo si butta via ogni anno? Ma allora, parliamo, io faccio sempre questo esempio, parliamo di miliardi di tonnellate a livello mondiale, però quando diamo questi dati sono talmente enormi che secondo me è anche difficile. Sono imprendibili. Bravissimo Carlo. Io porto sempre un dato di casa nostra, anzi in particolare della vostra città di Milano. Le panetterie di Milano buttano via ogni giorno 20 tonnellate di pane. E questo è il primo punto, secondo me, su cui riflettere. Sì. E come dico sempre io, moltiplichiamo le panetterie per... gastronomie, girarrosto, verdurieri, macellai, eccetera eccetera, e moltiplichiamo Milano per tante città italiane o europee. Si o può mondiali. Capire quanta roba purtroppo si butta via. Voi avete con questa idea dato e state dando un contributo importantissimo in questa partita contro lo spreco alimentare. Avete avuto anche un sacco di riconoscimenti. Come funziona? Sì, allora, Last Minute sotto casa funziona in maniera molto molto semplice, dico sempre un progetto semplice da spiegare, semplice da capire e semplice da utilizzare soprattutto. Praticamente ci si registra sul sito Last Minute sotto casa utilizzando l'app che abbiamo lanciato da un po' sia per Android che per iOS, e diciamo il negoziante si registra e indica che tipologia di negozio è, appunto una panetteria, una gastronomia, una pasticceria, e dove si trova, finito. Il cliente si registra e indica anch'esso dove abita, può indicare più di una località perché potrebbe lavorare in centro e abitare in periferia, e indica quali categorie merceologiche di questi prodotti alimentari vuole seguire, perché di nuovo fossi vegetariano non seguirei mai i macellai, e soprattutto a che distanza da casa voglio ricevere le offerte. Quindi ci ho messo più tempo a spiegarlo che a farlo. In questo momento, quando un negoziante si trova con un prodotto alimentare in eccedenza che rischia di buttare via, ecco, manda un semplicissimo messaggio che arriva a tutte le persone in tempo reale o via mail o sull'app, se si è scaricata l'app via notifica, a tutti quelli che abitano a 2 passi dal negozio. E ti dice: guarda che c'ho 4 rate in sconto al 50%, sì, vieni subito e te le porti via. Assolutamente. Assolutamente, io dico sempre, adesso stanno crescendo molto i mini market di quartiere che stanno aderendo, perché questi hanno veramente tutte le serie dei prodotti alimentari che mettono in un cesto, ma il problema è che se io non sono nel mini market, come faccio a sapere che ci sono 3 scatole di mozzarella, 2 insalate, 4 uova? E soprattutto se io ho bisogno di 2 mozzarelle, esco di casa, come faccio a sapere se andare nel supermercato di sinistra o quello di destra, che sono magari tutti e due a 100 metri da casa mia, e vado in quello dove ci sono le mozzarelle che so che sono in sconto, ecco, e che scadono oggi. Ecco, se qualcuno me lo dice tramite un banalissimo messaggio, però mi arriva un messaggio alle 18 che dice: ho ancora 6 scatole di mozzarella, 3 di wurstel, 4 uova e 5 insalate già lavate, me le metto a metà prezzo. Diciamo sempre, vince il negoziante che incassa grazie alla last minute sotto casa qualcosa in più e vede nuovi volti entrare nel punto vendita. Vince il cliente che compra un prodotto fresco a 2 passi da casa al 50%, a volte al 60%, e vince il pianeta. Noi solo a Torino, siamo nell'incubatore del Politecnico, abbiamo superato la tonnellata di cibo che ogni mese non viene buttata via. Win-win-win. Una tonnellata di cibo a Torino ogni mese viene recuperata grazie a questa cosa qua. E a fronte della tonnellata, dico sempre, ricordiamoci che ci sono dei negozianti che hanno fatto un piccolo incasso in più, piccolo, neanche piccolo, e dei cittadini che sono usciti con qualche soldino in più nelle tasche. Complimenti. Grazie, guarda, ringrazio tanto voi perché ci avevate scoperto un annetto fa. Sì, questo tra l'altro sì, perché siamo stati forse tra i primi, anche senza forza. Ma perché vogliamo averlo anche a Milano, vogliamo averlo anche sotto casa nostra, ci teniamo moltissimo. Sta crescendo anche a Milano, e grazie anche, come diceva appunto Alessio poco fa, siamo molto contenti perché abbiamo ricevuto veramente molti premi a livello nazionale e anche a livello internazionale. Perché poi è una cosa facile, siete un facilitatore, è un'idea molto intuitiva, però non ci aveva pensato nessuno prima, quindi ancora complimenti per questo. Ti posso fare una domanda veramente molto stupida che non c'entra nemmeno tantissimo? Ho una confezione di tortellini, le classiche confezioni, quelle da 250 grammi, che scade il 27 di dicembre, posso mangiarla oggi? Sì, assolutamente. Anche se è scaduta da un giorno. Guarda, io fino a 2 anni fa non era mio mestiere, ma io ho imparato moltissimo. Perfetto. Questa cosa appunto delle scadenze preferibilmente entro, puoi mangiartela, dicono anche gli esperti, per giorni e giorni e giorni. Perché volevo condividerla con la vostra app, ma è già scaduta e questo giustamente non è possibile, perché quella è una nuova app che si chiama Cibo Scaduto a pochissimo prezzo. A proposito, Francesco Ardito, ma vale anche per il cibo dei privati? Cioè, Vale solo per i negozi? Solo per i negozi, e tra l'altro i negozi vengono contattati a uno man mano che si registrano, perché a noi piace parlare con questi negozianti, spiegargli la logica, la filosofia del progetto. Sì. Quindi no, è solo per i negozi. E non vale nemmeno per esempio per le onlus? Cioè... Bravissimo, con le onlus stiamo proprio lanciando, la lanceremo adesso in gennaio, stiamo lavorando a questo, a un meccanismo un po' più particolare, nel senso, noi abbiamo pensato a quante situazioni ci sono di catering, matrimoni, cresime, e lì ci sono tonnellate veramente di cibo che rimangono lì, perché è evidente, le conosciamo tutti queste situazioni. Allora noi stiamo lanciando una funzionalità dell'app che consente ai negozianti, in particolare in questi casi non saranno negozianti ma sarà a finire l'agriturismo di turno, in qualche modo di avvisare la onlus più vicina, può avvisarne più di una automaticamente, del fatto che ad esempio il 2 gennaio ci sarà un evento, e quindi se vogliono andare poi a ritirare il tutto saranno in grado di farlo. Quindi stiamo proprio per lanciare anche in quel caso, però gratuitamente, no? Assolutamente gratuitamente, diciamo che il negoziante avrà un ritorno d'immagine, perché dirà che lui non butta via nulla e la onlus sarà contenta, e noi anche di poter distribuire. Dove siete presenti in città? In quale città in questo momento? Guarda, noi siamo tantissimo presenti in Piemonte, Torino, Novara, Asti, è partita molto bene la Sicilia, è partita Napoli, è partita alle vostre porte Monza, sta ingranando assolutamente Milano. Dicevo, dal momento del rilascio dell'app abbiamo visto crescere i negozi, e io dico sempre a tutti, perché è importante per noi, ai cittadini che si riscriveranno alla last minute sotto casa, parlate nei vostri negozianti, nel senso che per noi diventa difficile coprire tutta l'Italia, anche se in realtà stiamo correndo molto, nel senso, ditelo al vostro macellaio, al vostro panettiere, al vostro mini market sotto casa, perché che sarete voi i primi. E come si fa? Perché possono essere loro a farsi vivi con voi dicendo: io voglio aderire? Sì, basta andare sul sito, i negozianti se vogliono vanno sul sito, c'è un bottone registrati, lo perfetto. Fanno mentre dico ai cittadini di segnalarlo, perché sarete voi i primi a prendere le offerte, diciamo, scontate. Certo. Ci fa piacere anche in questo momento dire che appunto il progetto sta ricevendo molti riconoscimenti, molti premi. Siamo stati, e siamo molto felici di dirlo, invitati adesso, a inizio anno saremo invitati al Quirinale per essere premiati dal presidente Mattarella. Abbiamo ricevuto una comunicazione che ci ha davvero emozionato. Diciamo che anche a livello internazionale in questo momento ci sono un po' di realtà di investitori e di gruppi internazionali che ci stanno un po' contattando per esportare il modello velocemente anche all'estero. Ma questa è una notizia bellissima. Sì, siamo felicissimi. Non vendetegli l'idea sotto costo, direi. Non fatemi fregare. Comunque l'app si chiama Last Minute Sotto Casa, giusto? Assolutamente. No, lo ricordiamo perché magari qualcuno cerca solo sotto casa, invece è Last Minute Sotto Casa. Mi piacerebbe molto trovarla a casa mia, a Milano, prima o poi poterla utilizzare, perché è una cosa utilissima e molto bella. Mi piacerebbe davvero che ci fosse. Alessio, potrei diventare tu il nostro primo rappresentante, parlano al tuo panettiere, al tuo barista, al tuo girarrosto. Immaginatevi di avere il girarrosto quando hanno ancora 3-4 polli che girano, inizia a piovere. Ma infatti, e non entra nessuno. Esatto, ma infatti io è un'app che amo moltissimo, anche perché in un certo modo io, senza usare questa app, mi piace comprare i fondini in tutti i supermercati, supermercati sotto casa. Sì, compro i fondini, cioè la fine dei salumi, dello speck, del cotto, del crudo, perché ho l'affettatrice, e quindi in qualche modo io mangio quello che scelgono di mangiare le persone che abitano nelle mie vicinanze, perché ovviamente il fondino è del salume, certo, che è andato di più tra le persone che abitano vicino a casa mia, e mi piace molto questa cosa. Anche semplicemente comprando il fondino, io sicuramente compro quello che stanno mangiando anche gli altri, non dico condomini, ma perlomeno con quartieristi, quelli che vivono nello stesso quartiere. E a proposito di conquartieristi, c'è anche un aspetto che a noi piace sottolineare, perché noi indubbiamente usiamo internet, usiamo la tecnologia per far arrivare il messaggio appunto a centinaia o migliaia di cittadini, ma è un bel sistema rispetto a tanti sistemi online di acquisto tipo eBay, Amazon, Zalando, dove ti arriva il pacco e sei da solo a casa e te lo apri. È un sistema per far scendere le persone e fare anche andare a fare due parole col macellaio, col panettiere, col verduriere, appunto, quindi avvicina, se vogliamo, anche un po' le persone e rivitalizza anche un po' i quartieri. Verissimo, condivido moltissimo, infatti è molto vicino a un altro di quei progetti di cui abbiamo parlato, che sono le vie social, le strade social, tutte queste strade che si mettono in rete e in qualche modo comunicano, e quindi è di nuovo lo stesso discorso, cioè conoscere le persone che abitano nelle tue vicinanze. Complimenti, grazie ancora Francesco Ardito, Last Minute Sotto Casa, in bocca al lupo, a presto. A presto. Grazie a voi, grazie ancora, e a questo punto buon anno a tutti. Buon anno anche a te. Ciao, buon anno. Adesso comunico, annuncio ufficialmente che ce la metterò tutta per diventare il primo utente a Milano. Assolutamente. Non so se sarò il primo, vecchietto che sta già partendo, però insomma nel mio quartiere, mettiamolo così, ci provo. Mi ha incuriosito molto questa notizia che volevo dirti, era quella di cui volevo parlare prima, di questo uomo rapinatore che ha rapinato la Feltrinelli di Corso Buenos Aires ieri sera intorno alle 19, è entrato, ha anche tenuto in scacco i dipendenti, nessuno si è fatto male, e alla fine ha rubato 8 libri e se n'è andato con questi 8 libri del valore totale di 150 euro. Mi ha incuriosito perché è un rapinatore, diciamo, intellettuale, non ha rubato soldi, è entrato perché aveva bisogno di questi libri. Mi piacerebbe moltissimo che la Feltrinelli comunicasse i titoli di questi 8 libri, perché sarebbe bellissimo avere la short list degli 8 libri indispensabili per quest'uomo da doverli rubare. E dico anche che se fra questi 8 libri dovesse esserci il mio libro, dico alla Feltrinelli che lo pago io il mio libro, perché mi sembra il minimo. Io sono felicissimo che un rapinatore abbia sentito il bisogno di rubare, fossi in te io insisterei, dalla Feltrinelli, e quindi prometto che pago io il mio libro. Bravo. Laura dalla provincia di Milano, buonasera. Sì, buonasera. Prego, buonasera. Prego. Niente, io volevo raccontare il mio viaggio di nozze, che è stato abbastanza particolare e non consueto, sì, perché abbiamo fatto la transmongolica, ovvero abbiamo preso il treno a Mosca e siamo arrivati fino a Pechino passando dalla Mongolia. Beh, un viaggio di quante ore ci vogliono per fare a piedi? Questo viaggio? In treno, quante ore ci vogliono? Tutto in treno. E allora, noi abbiamo fatto delle soste durante il viaggio. Ci vorrebbero, senza fermarsi, circa 7 giorni. Noi chiaramente abbiamo deciso di fermarci sul lago Baikal, poi in Mongolia abbiamo girato abbastanza il paese. Quindi è uno di quei casi in cui il viaggio consiste proprio nel viaggio, cioè la stessa parola per dire due cose diverse, cioè avete trascorso il tempo sempre in treno praticamente, più o meno. molta parte del viaggio è stata in treno e abbiamo deciso apposta di passare, di fare il viaggio in Platzkart, ovvero un vagone aperto con 54 persone. Questo vuol dire che si condivideva tutto giorno un open e notte space, con, un open space. E chi erano gli altri tu viaggi? Tu con eleganza lo chiami un open space. Era una cosa abbastanza estrema come esperienza, cioè c'erano sì, animali estrema, o, sì. O erano tutti esseri umani? Perché a volte capita allora, anche di fare dei viaggi in treno con, diciamo che c'erano oltre a noi come altre coppie di occidentali, sì. C'era solo un'altra coppia in un altro vagone e poi erano tutti russi, sì. Tutte persone civili insomma lungo la Siberia. Come? No, dico tutte persone civili, è stato un viaggio sopportabile, non è stata una cosa infernale. Allora, diciamo che dopo 3 giorni e mezzo di viaggio in treno gli odori cominciano a sentirsi, ovviamente. Quello volevo dire. Soprattutto sì. Per quanto riguarda la toilette, perché dormendo in Platzkart c'è solo una toilette, ci sono 2 toilette per tutti i viaggiatori che stanno in quel vagone aperto. Per le famose 54 persone? Sì, per 54 persone, esatto. Vabbè, ma questo è più o meno quello che succede in un treno normale, no? C'è un vagone e una toilette. Sì, ma in un treno normale non si viaggia per 3 giorni ininterrottamente. A un certo punto arrivi alla stazione di Frittole e scendi. Va bene, Laura, grazie anche a te per aver partecipato al gioco. Stasera vi chiedevamo così, cioè, i viaggi più strani che avete fatto. Adesso poi ci tocca anche dire chi vince, tra poco. Abbiamo 2 minuti ancora di tempo. Redazione? Cioè, la giuria si sta riunendo. Esatto, si sta riunendo. Andrea dalla provincia di Vicenza, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Allora, niente, io appunto chiamo la provincia di Vicenza, Alto Piano di Asiago. Sì. Okay? E racconto velocemente, è successo 20 anni fa quando andavo all'università. Io abitavo a Padova, studiavo a Venezia e avevo l'abbonamento da Padova a Venezia. Alla fine del primo anno scolastico vado tra l'altro a comprare tutta una serie di libri per gli esami, quindi avevo tipo 150.000 lire di libri in borsa, vado a Venezia e poi parto perché devo tornare direttamente a casa, per cui acquisto un biglietto avendo l'abbonamento fino a Padova, da Padova a Vicenza, dove poi prendevo l'autobus a 2 giorni e mezzo. Abbiamo pochissimo tempo, deve arrivare all'arrivo. Sostanzialmente quello che è successo è che prima di salire in treno ho chiesto al controllore: devo obliterare il biglietto? Mi ha detto no, devi scendere a Padova e obliterarlo a Padova. Quando siamo arrivati a Padova il treno era strapieno, quando sono sceso a obliterarlo, mentre lo obliteravo il treno si è chiuso, sono chiuse le porte e è ripartito. Però noi non abbiamo più tempo, quindi mi dispiace Andrea, non puoi finire il racconto, anzi ve lo diciamo domani chi ha vinto, vai. Vi lasciamo in sospeso, esatto. Come i dati dell'ARPA. Mandacela via mail, tutto domani, ciao, a domani alle 18.30 con Si può fare. Ciao, da Carlo Gabardini.